sera, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, oggi è martedì 7 agosto 2012, buonasera ad Agostino Spolaore e soprattutto buonasera dal mio compagno, collega, come ti devo chiamare? Amico. Amico. Siamo diventati amici adesso. Tutti amici. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Abbiamo cominciato agosto speciale per agosto speciale. Noi non siamo in ferie, come dicevamo anche l'altra volta, ma siamo qui, staccano vizi come non mai per quanto riguarda l'amore verso la musica e credo sia doveroso essere così proprio perché cerchiamo di regalare sempre la più bella musica possibile qui dalle nostre frequenze, che vi ricordo sono 88.700 e 94.600 MHz appunto in modulazione di frequenza. Ci potete comunque anche sentire in streaming semplicemente collegandovi nel nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it. Circa quasi alla fine insomma della pagina sulla sinistra in alto c'è scritto ascolta la radio e cliccando lì sentite la radio in diretta e nello stesso tempo comunque potete anche visitare il nostro sito dove troverete tutte le varie recensioni, notizie, informazioni eccetera, tutto quello che può riguardare la nostra regione ma anche al di fuori. E vi ricordo che la radio la sentite in diretta 24 ore su 24. Poi ancora i nostri numeri telefonici, questa sera speriamo vengano sfruttati per magari chiedere qualcosa a questo rocchettaro che tra poco lo presentiamo. Vi ricordo il nostro numero, quello in studio, è lo 049 875 6423. Mentre per quanto riguarda gli sms vi ricordo il 346 23 20 033. C'è la pagina su Facebook, ce ne sono due, una è semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra invece è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita dal nostro direttore artistico che è in ferie, beato lui. Che salutiamo in ferie. Ciao Alberto Pisco. E lì comunque potete tranquillamente scrivere, oppure anche sulla mia pagina di Facebook se volete scrivere qualcosa questa sera per fare qualche domanda al nostro artista, oppure potete scrivere anche sulla pagina sua, cioè sulla pagina di Maurizio Pirovano. Ciao Maurizio. Buonasera a tutti e a tutti. Io devi venire vicino al microfono. Scusa, stai parlando con quello. Sempre con questo. Così non cambiamo troppo. Vabbè, pensavo volessi parlare con i nostri. Ciao, benvenuto a Blu Radio Veneto. Guarda, un abbraccio grandissimo a tutti voi perché è veramente un piacere, non lo dico per modo di dire. Chi non avesse mai visto quelli che sono gli studi di Blu Radio, veramente è una famiglia. Dopo mezz'ora sei già in famiglia. Certo, siamo perfettamente d'accordo. Noi vogliamo questa situazione, comunque cerchiamo di metterla proprio. Poi stasera siamo ancora più in famiglia perché c'è veramente tutta la mia famiglia. C'è Antonio, c'è Ale. Sì, che li vogliamo presentare, insomma. Sì. C'è Antonio Marinelli. Antonio Marinelli. Non schiacciare, no. Vai. Parla vicino al microfono. Detto Ercoda. Aircoda. Parla vicino al microfono. C'è una bella ciao, è una bella immagine, c'è una bella maglietta Alice in Chains, quindi chiaramente grandi. si può capire da dove, cosa vuol dire Alice in Chains. Sono dei bambini cattivi. No, è un bambino buono con una bella chitarra davanti, chiaramente. E invece alla batteria abbiamo Alessandro Sironi. Ciao a tutti, ciao. Smilzo, Sir Alessandro Sironi. Grazie Maurizio. Maurizio, tu vieni da Lecco praticamente. Noi veniamo da quel non luogo che è la Brianza, che non si capisce bene tra Bergamo e Lecco, sì. Quella cosa. La Brianza. Sì. Quei 20 chilometri diciamo d'asfalto che rappresentano quella fetta di Adda che passa tra Bergamo e Lecco. Noi veniamo lì. Un luogo un bel posto comunque. Importante per la musica rock, soprattutto per la musica del chitarrista. Tu ami la chitarra, hai cominciato a suonare da autodidatta, ma poi... Guarda Mauri, allora mi fa piacere che te lo dici perché molto spesso quando giri, magari quando giri radio che magari non sono magari nella nostra zona, ti dicono ah però la Brianza soprattutto, ma cos'è che fai? Fai mobili? Io rimango lì in silenzio totale e dico no. Alla fine se arrivi da Bologna magari è più figo fare il cantautore, perché io comunque noi comunque raccontiamo storie, certo. Comunque raccontiamo storie rock comunque, però raccontiamo storie perché la musica rock poi blues c'è dentro tutto, capito? Raccontiamo storie e si raccontano storie anche in Brianza. Posso dirti una cosa Maurizio? Secondo me tu dovevi proprio comunque fare musica rock, con quella carica, quella grinta che hai addosso, sei proprio adattissimo a fare musica rock. Diciamo che io, come tu, ne parlavamo fuori onda, certo. Lui vede ogni tanto il mio diario in Facebook, anzi, chi volesse venirsi a contattare c'è lì, vi leggiamo tutto quello che ci chiedete, anzi, se ci fate sentire la vostra presenza è ancora più bello. Io ho fortissimi problemi di mal di stomaco, sia... quelli veri che poi quelli dentro interiori. Io penso che la musica risolva comunque ti aiuta a stare in piedi. E me ne rendo conto, più tempo noi passiamo insieme, pensando insieme con i ragazzi, ti rendi conto che non c'è età per la musica rock. Certo. Perché trovi i ragazzi di 15 anni come i ragazzi di 60. E ti rendi conto che c'è tanta gente che ha mal di stomaco in questo periodo e ha bisogno di qualcuno che comunque che capisca che sei vicino, capito? Sì, a proposito che condividi qualcosa, perché la musica poi è condivisione. Certo, a proposito di questo hai detto due o tre frasi interessanti. La musica non può essere il fine, ma deve essere il mezzo. Il mezzo per riuscire ad aprire le porte. Ma guarda, io... Assolutamente, le porte, con la musica si aprono tante porte, sì. Tutte le porte, possiamo dire. Guarda, noi arriviamo da mondi diversi, perché questa sera... Visto che poi si parla... Allora, ragazzi, chi è in onda, chi ci ascolta in diretta, poi fuori ci si dice no, ma Mauri, stasera facciamo questa cosa qua. Stasera è una serata, come dicevano i ragazzi di Blu Radio, è una grazie serata... per i ragazzi, Soprattutto a lui è un ragazzo. I ragazzi sì, sono sempre ragazzi. Beh. Hai capito? Lui è che paraculo, capito? Lui è il nonnetto. Questa è una serata... Questa mi fanno segno che paraculo, forse siamo al limite. Ecco. Questa è una serata in famiglia, certo, perciò certo. Io ci tengo proprio che la facciamo. Io ti dico che la musica è veramente condivisione, noi arriviamo da mondi totalmente diversi, sono 3 anni che stiamo insieme oggi. Oh, bene. Oggi sono 3 anni che io e Alessandro Sironi suoniamo insieme. Lui Antonio è arrivato un mese dopo. Che quindi praticamente tutti insieme. Avevamo un altro compagno sono di viaggio. Sei stato escluso. L'abbiamo cercato io e Ale, si può dire disperatamente. E esatto. Ecco. E ti posso dire che dopo 3 anni lui forse non si ricordava. Oggi esattamente 3 anni fa facevamo davanti ad Albenga la nostra prima presenza, e da lì sono passati più di 100 concerti. Questo non me lo ricordavo. Non te lo ricordavi? No. Io invece me le tengo le date. Sai perché? Le date, le donne ti dicono: ma non ti ricordi mai gli onomastici? Non ti ricordi. Però le date per noi uomini, le date che contano, invece te le ricordi. Certo, certamente. E tu hai detto 100 concerti, sono tanti. Abbiamo passati, avete festeggiato il 100° concerto. È una cosa molto bella, perché suonare dal vivo è la cosa più importante per un musicista. È tutto. Hai detto una cosa è lì dove c'è la ciccia. Perché quando vai in studio in realtà ci sono molte menate che guarda, loro te lo possono dire più di me, perché poi intendi, cioè, in studio si può costruire, si può cambiare. No, noi arriviamo noi abbiamo, allora io ho imparato, cioè la mia formazione è stata il primo disco, il tempo stringe, non c'era ancora la mia famiglia e io ho sentito veramente molto questa mancanza di trovarsi da soli. Poi quando abbiamo fatto il secondo disco siamo arrivati con la volontà di avere molta praticamente tutto fatto, capito? E Anto te lo può dire, nel senso, guarda, io su questa cosa qua, però ti accorgi che in studio devi arrivare con tutto, però non c'è quella, ti passa quella forza che hai di fronte alla gente, capito? Il tempo stringe, no, Maurizio, dimmi. No. merda, scusate, perdonatemi. No, scherzo, merda, così. Si può dire. No, è vero, comunque in studio lo sai benissimo. Adesso obiettivamente in studio ti passa tantissimo comunque tu sai che comunque devi fare una cosa pulita in studio, devi dare, Mauri, devi dare il meglio di quello. Però volontariamente il disco viene sempre comunque come se fosse i piatti di oggi, non il taleggio. A me piace fare il paragone, il taleggio di una volta nella baita lo prendi, adesso ti dicono le nuove leggi, ti dicono che deve essere asettico, deve... Ecco, il disco è un po' quella cosa lì, bella, precisa, pulita, magari la foto da pubblicità, però è asettico. Invece dal vivo è non senti cosa. La sbavatura, dal vivo non senti ma qua quanti bimbi ne stanno. Proprio di questo, il primo disco che tu hai scritto, Il tempo stringe, del 2009, era l'inizio della tua carriera, non c'erano ancora loro, era una cosa un po' diversa. Non dico che fosse un disco solista, ma è un disco che aveva la possibilità di ampliare un po' un discorso e poi è ampliato col disco di adesso. Però un disco che ha fatto 6.000 copie non è mica semplice per un disco di esordio, Maurizio. Ma allora, con l'etichetta l'Atlantide, cominciamo a fare i ringraziamenti. No, facciamo i ringraziamenti. Allora, i ringraziamenti li fa Alessandro Sironi. Vai, ringrazia Dario Evaldo della No, Dario Evaldo, due persone molto buone, devo dire. E a loro dico grazie, soprattutto per Maurizio, perché gli ha dato la possibilità di lanciarsi in questo mondo. Guarda, ecco, diciamo una cosa: un brutto mondo, ecco. No, ma anche un, sì, può essere anche un brutto, ma no, io ti dico, allora io ti dico una cosa: allora, Dario e Valdo, che sono dell'etichetta praticamente, sono dell'Atlantide, dell'etichetta. Però in realtà si è costruito. Io dico che esiste ancora della positività, ancora la possibilità comunque di trovare delle persone comunque concrete, delle persone oneste nella musica. Certo. Io l'ho trovato, i fratelli Riva. Loro mi hanno detto dove potevano arrivare, cosa potevano fare. Allora, questo voglio essere molto serio e molto preciso su questa cosa. Ragazzi, diffidate da chi vi promette mari e monti. Non esistono, specialmente oggi. Diffidate sempre. Se voi arrivate con le vostre quattro canzoncine e uno vi dice io per te ti posso portare, non facciamo san di qua, san di là, e poi ti prospetta dei contrattini a firmare, diffidate. Ragazzi, tornate indietro e rifate la gavetta. Capito. Io ho fatto così. Ho trovato delle persone oneste, sincere, che mi hanno detto dove potevo arrivare e mi hanno detto anche la gavetta che dovevo fare. E io era quella che volevo fare, quella che dicevi te all'inizio. Io volevo. Noi abbiamo fatto 100 date non perché bisognava fare il numero, perché portare la gente davanti mentre non fai cover a dirgli quello che tu pensi e vedere la gente che in realtà molto spesso sa le parole più precise di te del disco, perché tu magari fai quattro frasi diverse e poi le cambi e ti guarda. Funziona. Certo, capisci che c'è ancora speranza per la musica. Poi, diffidate dalle scorciatoie, specialmente nella musica, specialmente oggi. Non esistono, non sono mai esistite, tantomeno. E tu hai detto una cosa giusta, ragazzi: questa band non fa cover, fa solo pezzi inediti loro. E quello è importante, è fondamentale, secondo me. Ne vogliamo ascoltare uno? Certamente, subito. Anche perché sennò poi qui sì, ci sì, mettiamo. Sennò qua il tempo stringe. No, più che altro. Proprio quello. Bravo. Autocitazioni. Allora, Maurizio, cosa ci fai sentire? Diccelo. Io ho trovato uno che è un figlio di un centro commerciale. È il nostro disco. Guarda, allora, diciamoci tutto, perché secondo me le persone non vanno mai prese in giro. Io dico, allora, esistono un paio di parolacce che non sono, che sono giustamente, che non, che sono, cercate di mettervi i beep in testa, vabbè. Ma tolto quello, il messaggio è molto preciso di questa canzone. Dice che voi e noi, specialmente oggi in questo periodo, non siamo quello che possiamo comprare. Non siamo i soldi che abbiamo nel portafoglio. Noi siamo molto di più. Noi siamo la fatica che facciamo per tenere in piedi una famiglia. Perché parliamoci chiaro, io, Ale, Anto, non potremmo essere qua se non avessimo dietro delle famiglie che comunque ci hanno aiutato a essere ciò che siamo. Certo che ci siamo fatti il culo, ma se non avevamo il culo di avere delle persone che ci aiutavano, che credevano in noi, che hanno capito, non ci hanno regalato niente, ma hanno capito che noi, quella roba qua è la nostra vita, non avremmo potuto mai fare neanche metà di quello che facciamo. Lo dicevamo stasera mentre facevamo, lo dicevamo prima con te fuori. Io se non avessi mia madre che mi sostituisce nel mio lavoro, non potrei essere qua. Certo, capisci? Certo. Funziona così. Quindi, voi non siete quello che potete comprare. Ricordatevelo sempre, specialmente oggi. E allora, non disturbiamo la televisione e ci ascoltiamo Figlio di un centro commerciale. E vado al finestrino, genera rabbia, stomaco e cuore, son vivo finché non mi prendono. E dovrei forse drogarmi un po' di più, di pubblicità che danno la TV. Figlio di un centro commerciale, figlio di una paura che ho di andare, figlio di mille desideri, ma quando ti han tolto tutto tu doveri, figlio di un Dio che paghi errate, figlio di maghi, mostri e fate. Rimetto i miei peccati dentro un comodino, brucia Milano dentro il mio vino, ed una troia gioca rock and roll. Tu che dovevi darmi tutte le risposte, tu che dovevi dirmi cosa è giusto, com'è che conta solo ciò che ho. E com'è che dovrei farmi un po' di più di felicità che danno nei fast food. Centro commerciale, figlio di una paura che ho di andare, figlio dei mille desideri, ma quando ti han tolto tutto, tu dove eri, figlio di Dio televisivo. Santi troie e fate. Le risposte, tu che dovevi dirmi cosa è giusto, com'è che conta solo ciò che ho. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, abbiamo sentito il pezzo. Io voglio sapere una cosa: come l'avete costruito in studio questo pezzo qua? Con quali momenti? Tu l'hai scritto, Maurizio, e poi gli altri due tuoi colleghi l'hanno esaminato, l'hanno... Una storia strana. Dimmi, ma com'è nato? Dimmi. Figlio di un centro commerciale è nato esattamente il 15 di agosto del 2010. Sì. In cui io ho chiamato Anto, io ho detto, guarda, io c'ho questa... Nostro chitarrista qui davanti. Anto, allora, bisogna imparare, quando si ascolta bisogna essere attenti, Anto è il... il mio chitarrista. Sono io, non mi vedete, sono io. Cioè, semplicemente gli ho detto, io c'ho questa canzone, dovevamo portare, dopo C'è ragione te che era arrivata seconda a Sam & Son, l'anno dopo dovevamo rifare una canzone che c'era stata richiesta una canzone un pochettino più movimentata. Perché hai fatto qualche concorso per questi pezzi? No, noi abbiamo fatto un Sanremo, abbiamo fatto una selezione per Sanremo che era andata abbastanza bene. Certo. Poi se era andata bene bene sicuramente magari ci avreste visti di più. Così. Vabbè, ma... E invece c'è stato un tentativo. No, abbiamo fatto una buona cosa con Quando ero bambino, che è sempre presente nell'album. Beh, questo è molto bello, dopo ne parliamo di quello. Dopo ne parliamo del singolo, vabbè. Certo. Dopo c'è ragione te, concentriamoci su dopo c'è ragione te, ne parliamo dopo quando la faremo dal vivo. Certo. C'era da fare un pezzo movimentato, un pezzo attuale, mi è stato chiesto, sai, ogni tanto ti chiedono "Ma te non hai un pezzo che sia attuale?" E tu gli dici "Ma può darsi." Allora aspetta, adesso faccio la mia autocensura. Ma scusami, va bene. Io cerco di capire. Ma io faccio tutti i pezzi attuali per me, perché io scrivo quello che vedo, perciò per me sono attualissimi. Però mentre stavamo registrando le batterie Non disturbiamo la televisione in un caldo pazzesco, in quel dell'agosto del 2010, e Ale era praticamente rinchiuso, tipo Alessandro il batterista praticamente era chiuso in un bunker a farsi le batterie. Una bella sauna. Sì, veramente sauna. Più di una bella sauna quella lì. Vedi veramente l'amore per la musica. Io avevo quel pezzo qua che mi girava proprio, perché tornavo a casa, sai, torni a casa alle 11 di sera, l'unica cosa che tornavi da Busnago era un centro aperta per andare a fare la spesa, perché agosto non c'è niente aperto. Sì, c'è un centro commerciale. Io mi ricordo che una volta ero lì attaccato a un negozio di videogiochi, giocattoli, così. E diceva, e c'era una frase bellissima che ancora ripeto tante volte. Una mamma gli diceva: ma la mamma non c'ha i soldini per comprare quella cosa lì. E c'era un figlio famoso figlio di un centro commerciale che penso che avesse 6-7 anni, ma non so se li aveva, che diceva: ma mamma, non c'è problema, tu tiri fuori la carta di credito e puoi comprare quello che vuoi. Certo. Tanto costa solo 170 euro e 500. E io sono rimasto lì, ho detto: ma dove cavolo... Ho detto un'altra cosa dentro di sì, me. Sì, sì, non importa. Dove... Ho detto: okay, ma dove cavoli, dove cavoli siamo? Ma, certo. Ma cosa sta succedendo? E allora ti è venuto in mente di scrivere un pezzo. E noi non siamo, appunto. È nato così. Semplicemente i nostri pezzi in questa maniera, in quella maniera qua, partono. Che io chiamo Anto, gli dico: guarda che ti mando una cosa. Anto ha il dono. E... La solista, come l'idea della solista dentro. Guarda, del il giorno dopo era il 15, questo era il 14 sì. di sera, con un temporale della Madonna che abbiamo registrato. Anche sì. quella che è la traccia sì. ambigua che tutti si chiedono: ma perché avete fatto Tra la guerra e l'amore? Perché Tra la guerra e l'amore è nata in mezzo alla strada, registrata in mezzo alla strada, con un temporale che è reale, per dire delle cose, due parole che dovevano spiegare un po' come vivevamo quel periodo lì. Ecco, quella sera lì abbiamo registrato, io ho registrato sul terrazzo di casa mia mentre veniva giù di lui l'universale, Tra la guerra e l'amore, sulle chitarre di Anto. E mentre lui mentre io facevo questo, lui a casa sua, io gli avevo dato questa traccia guida, aveva fatto quello che è, secondo me, un grandissimo assolo, un grandissimo tiro, la chitarra che sentite sotto. Precisa, ci ha fatto le rifiniture, ma l'aveva già fatta il 15, mi ricorderò sempre, il 15 di agosto che tutti andiamo in giro a festeggiare, mi arriva l'email e c'era già Antonio Marinelli. Penso era pronto praticamente. Era già pronto. Noi funziona così, noi ci siamo trovati, io penso che... È come spiegare quando la gente si innamora. Io penso che non puoi spiegare. Certo, solo... Si trova ma, con tutti i pregi e difetti del caso. Certo, certo. Ma volevo chiederti, Maurizio, ma le tue canzoni quindi nascono tutte da una sensazione che vedi al momento, cioè un'ispirazione che hai al momento, sono anche cose tue personali, private, voglio dire? Allora, è tutto privato. Io non scrivo. Allora, io ti spiego. Io sono uno che ha fatto il ragioniere perché non sapeva cosa fare nella sua vita. È andato a studiare a fare ragioneria perché gli hanno detto: qualcosa devi fare. E 5 anni ho schivato. Cosa c'è? E 5 anni ho schivato. Perché qua ci sono segni. Sì. Ho schivato 5 anni di lavoro. Che lavoro nobilita. Specialmente adesso che. Sì. Trovarlo nobilita ancora di più, sì. ragazzi. E lo rende simile. Vabbè, comunque, dopo 5 anni di ragioneria mi sono trovato davanti a una trancia a 19 anni. E ho capito che il mondo non era poco, non era proprio come me l'avevano raccontato, capito? La vita non era come si racconta, specialmente ancora di più oggi in televisione. Allora un giorno mi ricordo che ho cominciato a scrivere poesie e poi canzoni perché non mi bastava. Perciò è tutto molto personale. Io non scriverei mai una cosa tanto per fare. Cioè io non faccio le poesie greche tanto per il bello di fare poesia. Comunque, per me canzone è necessità, la musica è una necessità. A noi la musica ci ha salvato la vita. Comunque è una cosa reale, quindi le canzoni sono tutte situazioni reali. Sono talmente reali che bisogna tagliare le parolacce. No, cioè... Sei prolifico te come scrittore? E non lo so, guarda, allora scusami, adesso ti ripeto, dopo tante... Nel mio piccolo, tante interviste, ti ripeto come la frase che ho detto ingenuamente la prima volta a RCS... Un'altra, sì, sì, ma un'altra signora radio, ho detto: ma perché, come fai a scrivere canzoni? Io a quel ragazzo lì gli ho risposto in questa maniera qua: tu vai in bagno. Come tu vai in bagno, a me mi viene scrivere canzoni. Io se non scrivessi canzoni mi sentirei molto costipato, ma molto di più di costipato. I Buscopan non servirebbero. Benissimo. E neanche i Cristeri. Ok. Comunque Maria La Neve ti dice: forza Maurizio, buona serata a tutti. Ciao mamma. È la mamma di Anto, ecco. Grande Mari, forza salva. Questa è la nostra forza. Queste sono le... Stasera Mari faccio il bravo, nessuna parolaccia. Ok, suoniamo ragazzi. Sì, dai, si suona che è la cosa migliore. Esattamente. Certo. Che cosa suoniamo? Suoniamoci a ragione te. Ok. La canzone che è senza un motivo, senza un perché... E forse quella che la gente è rimasta più nel cuore. Sì, anche il sottoscritto, visto che per un mese è andata in onda dalla nostra emittente. Allora, siccome è il bello della radio, fatta come una volta, fatta da veri rocchettari come voi e come noi. Certo. Perché il rock è dentro, al di là di quello che dice non vai a 50 all'ora, ti comporti sempre bene se rock dentro, no. Il rock è un'altra roba. Il rock è quel mal di stomaco che c'hai lì e ti fa essere il diverso magari in un paese di 5.000 abitanti. E quando ti va bene tutti dicono che sei figo, prima ti dicono che sei uno sfigato. C'è ragione te, semplicemente sono tutte le cose che non ho potuto dire alla persona a cui ho voluto più bene, che è stato mio papà, oltre a mia mamma. perché tutti nella vita abbiamo la nostra via crucis, e ragazzi, potete scappare finché volete da quella via crucis, ma prima o poi arriva. Allora, mi spiace, bisogna, la vita è così, nel bello e nel brutto. Io c'avevo delle robe che non potevo dire a mio babbo, io l'ho scritta in quella canzone qua, e forse è per quello che la gente ama questa canzone. Luna, Luna, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. C'hai ragione te, che siamo sempre ad un incrocio con tutti i nostri sé, nascosti in mezzo troppo buio, e c'hai ragione te, per ogni volta che hai dovuto solo dirti che domani è ancora un altro giorno, e per il tempo che ti è andato e per quello che hai voluto, per le notti in cui hai sognato senza mai avere un invito, c'hai ragione te, che hai messo tutto su una croce, tutti i tuoi perché, dicendo adesso andate in pace, c'hai ragione te, per ogni volta che hai mentito dicendo che Dio c'è, c'è, anche se non l'hai mai incontrato, e per il tempo che ti è andato, e per quello che hai vissuto, per le notti in cui hai sognato senza mai chiedere aiuto, per le corse senza fiato fatte per sentirti vivo, per la pioggia e per le botte, per le lacrime di un vino, c'era giù. Questo è un pezzo bellissimo che a me e al nostro direttore artistico Alberto è piaciuto immediatamente, e immediatamente abbiamo deciso di inserirlo nella, per la nostra mittente, per un mese consecutivo è andato in onda. Questo vuol dire essere una radio. Questo è, a noi è piaciuto immediatamente per una cosa, Maurizio, perché aveva, innanzitutto era una ballad, questa è una ballad vera e propria, è una melodia molto accattivante, il ritornello è molto accattivante, che ti prende immediatamente, il riff è, ti prende immediatamente, e anche il colpo di batteria che ha dato Alessandro qui dal vivo in questo momento ha un significato, dal quid, da continuiamo, proseguiamo il discorso del pezzo. Vedi Mauri, tu hai spiegato, e dicono che io sono bravo con le parole, le persone che ci mettono il cuore sono molto più brave di me. Le persone veramente brave con le parole. Te, cioè, hai spiegato in 20 secondi quello che noi abbiamo e quello che è dentro quella canzone qua. Molto bella, perché io vedo, io ho sentito qua, i nostri ascoltatori non vi possono vedere, ma vi possono sentire sicuramente, quindi ho sentito il feeling, il trasporto che c'era in questo pezzo. Ci saranno anche in quegli altri, siamo d'accordo, ma questo pezzo a me piaceva particolarmente e abbiamo scelto questo. È un bel pezzo, veramente un grande pezzo. Grazie, perché rimane sempre una cosa che io non ho ancora ben capito e che continuo. Io cosa ho scritta non ho ancora ben capito. Vedi, la gente ama questo pezzo perché con questo pezzo sei entrato dentro nel cuore della gente. Questo è il motivo, secondo me, per quello lo ama, ecco. Assolutamente. Beh, quando c'è l'umiltà si va avanti, Maurizio. Si va avanti. Non è questione di umiltà, no, è una questione di limiti. No, non è solamente limiti, insomma, umiltà e poi anche il fatto di mettersi a nudo, insomma, tra virgolette, senza aver paura. Vabbè, se non ti metti a nudo evita di fare. Allora, quando tu una volta si diceva, oggi proprio riguardando i vecchi scritti, perché poi quando fai capitano quelle giornate in cui guardi i vecchi diari. Certo. C'era il 28 agosto 2004, è stata la prima data che ho suonato in pubblico, era tantissimo tempo fa. Eri da sola all'epoca? Sì, sì, ero addirittura con il mio carissimo amico, poi che non riesci a capire nella vita perché incontri certa gente che è così buona con te. Matteo Trotta, violinista della Scala, cioè uno che fa tutt'altro, e con lui avevamo fatto, pensa, la prima registrazione di quando ero bambino. Ah, ok. Dopo passiamo quando ero bambino. È un pezzo molto interessante, ecco. Molto importante, soprattutto. Ecco. È molto importante. Lo fai dal vivo o lo fai dal disco? No, cosa facciamo? Dal vivo. La facciamo dal vivo, perché visto che siamo qua con le chitarre, con le batterie, va fatto dal vivo, perché ragazzi, dal vivo si sente tutto, si sente se c'è ciccia o se non c'è ciccia. Ah, dal vivo si sente immediatamente se sai suonare oppure no. Ma se ci metti il cuore. Sì, però no. D'accordo, ci puoi mettere il cuore, però dal vivo certi giochetti non si possono fare, c'è poco da fare. Qui stasera non ci sono giochetti, siete voi. Qua siamo noi. Appunto, la più bella cosa. Versione grezza, però, perché non è. Versione grezza finché vuoi, perché ma siete Antonio voi. Marinelli deve essere figlio. Antonio Marinelli è bravo mentre a suonare la chitarra. Mentre nessuno vede, ma ha tirato su appena la patta che era. Ma tenete presente che comunque la canzone nasce sempre grezza, poi viene fatta. No, quindi. Però io penso che veramente Ci sono dei forti. Io non penso di essere un grandissimo musicista, assolutamente. Non mi considero neanche un musicista. Io mi considero una persona che aveva bisogno e fortunatamente ha trovato il modo per dire delle cose. E ho scoperto che esiste tantissima gente come me. E ragazzi, quando sento la famosa scontro generazionale, io ho la fortuna di fare un lavoro che sto con i ragazzi. Ho scelto di fare un lavoro che sto con i ragazzi perché ho un centro sportivo che poi tra l'altro funge quasi da oratorio. È più oratorio, anzi da me è vietata la bestemmia, parlavamo di parolacce. Una volta uno mi ha detto, ma qua è peggio dell'oratorio. Qua è peggio dell'oratorio, perché là magari il prete ti perdona le cose, io no. Io non te le perdono perché io vengo fuori dalla strada come te. E se ti dico che qua ci sono i bambini piccoli, ci sono le mamme, te qua non bestemmi. Giusto. Ecco, io sono fatto così. Non esiste lo scontro generazionale, è una roba che si è inventata probabilmente quella scatola che adesso è diventata molto piatta. Sì, ma prima era molto più. Prima la vedevi di più perché dovevi metterla, prendeva più spazio. Ecco, non esiste uno scontro generazionale. I ragazzi sono tali e quali come eravamo noi e hanno bisogno di qualcuno che gli dica che esistono ancora i sogni e che abbia il coraggio e che gli dica che devono avere il coraggio, la forza e il peso di prendere quei sogni e portarli in giro. Che vuol dire avere un lavoro, che vuol dire prendersi le responsabilità per uno studio, vuol dire quelle cose che il mio babbo una volta mi diceva, io gli dicevo sì, vabbè, ma io voglio sognare, e prima di sognare devi fare le cose giuste, capito? Un lavoro. Noi qua, Anto, domani alle 5 del mattino prende e va a lavorare. Non Ale, so come, va, però. Ale, guiderò io, vabbè. Vabbè. Ale deve studiare, certo, sì. Perché noi è l'unico figlio che abbiamo che continua a studiare, e io giovane, devo continuare il mio lavoro, certo. Quindi, perciò sognare non vuol dire campare nelle nuvole, no. Vuol dire avere i piedi bene a terra e guardare il cielo sempre per vedere dove va. E poi una cosa molto interessante, tu hai sognato e sei cresciuto a pane e grunge, È bello, interessante. Uno che cresce a pane e grungi. Quindi per Jam entrano, vengono fuori, se ne vanno. Finalmente una persona. Non rompere. O grungio, grazie. Non rompere le balls. O grungio. Vabbè. No, no, no, Mauri. È la stessa cosa. Deve essere così. È la stessa cosa. Mi prendono in giro. Sai che cos'è? Dai, mi prendono in giro a me. Perché io parlo come Mauri. No, come si scrive? Però posso dirti una cosa: hai coniato un nuovo nome per il mio collega Mauri. D'ora in poi lo chiameremo Mauri. Nonno Mauri. Qualcuno dice come nonno Mauri. L'importante è capirci. Cioè, lui è, bravo, figlio. È praticamente cresciuto con i Pearl Jam. Ha fatto io, un gesto. È cresciuto con i Pearl Jam. Come mai sei cresciuto con i Pearl Jam? No, allora devo dire, io ho sempre amato il rock anni 90. Si vede anche. Poi ci siamo svecchiati. Comunque, pensavo che questo fosse veramente il modo più genuino e grezzo per arrivare alla gente. Diciamo che ho avuto la fortuna di avere dei maestri, questi due elementi che ho avuto qua, che mi hanno ancora fatto amare questo genere. Ma capito? Chi è di loro due il più vicino ai Pearl Jam? Il batterista sicuramente, anche lui chitarrista. Ale Anto lo amano visceralmente. Sì, Alice in Chains. Poi alla fine, se non ci fosse stato quell'amore anche da parte mia, però essendo io, mettendo sempre davanti, io ho sempre pensato che la parola andava davanti a tutto. Poi ti rendi conto che tante volte due note spiegano di più di 10 parole. Pasolini, il buon vecchio fa, che c'è una bellissima frase che io voglio ripetere, perché ricordare le frasi di una persona che te le dice solo a te, perché perché di te si fida, perché fa il metal meccanico e magari certe frasi non vanno dette. C'era una frase del mio babbo che mi diceva, vedi Mau, in quel paese qua è un posto strano, la verità non salta mai fuori, non è che non salta mai fuori, ci impiega 30 anni e dopo 30 anni la verità non è più verità, è storia, e qui la storia non la studia nessuno. Questo era mio papà, che ha fatto 40 anni di metal meccanico, che si fermava con me al bar magari finito, e dette da una persona di 50 anni, scusate ma mi si piega, per me è difficile certe parlare di queste cose qua, però dette queste frasi qua sono frasi che io ripeto, perché è un modo, cioè non serve ricordare le persone andando davanti alla tomba, per me mio papà è qua adesso insieme a noi, certo. In quella frase lì, capito, in c'è ragione te, certo. In quella frase lì Pasolini diceva che la poesia è bellissima, però serve se c'è sotto la musica. La musica apre porte in cui solo la parola può entrare. Beh, noi siamo quella roba lì, per questo forse siamo questa cosa. Adesso, visto che mi sono un po' emozionato, sono entrato, no, ma loro sono abituati, anzi stiamo facendo degli esercizi per non fare queste cose. Io vorrei introdurre Quando ero bambino, che poi sì, che è un testo molto importante, che è un testo fondamentale, che parla di cosa? Tra l'altro noi siamo delle persone che ci facciamo auto del male, chiunque può prevedere quella che è la copertina, la cover del disco, dice, ah ma quello là somiglia a Ligabue, sì. Ah ma questo qua fa rock italiano, quindi è un clone di Ligabue, giusto? Quanti te l'hanno detto? Ma guarda, probabilmente perché mille. Tantissime. Noi una volta era un tabù, non affrontavamo questo argomento. Noi facciamo quello che facciamo. Certo. Noi siamo, forse voi siete voi, ragazzi, se volete facciamo un possiamo fare un sondaggio, io mi posso tingere anche di rosso fosforescente se a voi va bene, però non cambiano le cose. Noi raccontiamo la vita vera. Noi raccontiamo la nostra strada. Noi non siamo la copia di nessuno, io tantomeno, perché sinceramente avrei altro di meglio da fare. Di cover ce ne sono, cover band ce ne sono rispettabilissime che fanno benissimo la musica. Noi quella roba lì non la sappiamo fare. Siamo veri, così, con tutti i nostri difetti e pregi, con qualche parolaccia in più. E tanto è vero che è vera quando ero bambino. Quando ero bambino, noi ci facciamo, quando ci vogliamo fare del male, ci facciamo del male, perché per star fuori un singolo come Quando ero bambino, tu dici non è radiofonico. No, assolutamente no. C'era la necessità di metterlo. Per dire una roba semplice, non esiste solo la tua famiglia, non esiste solo il tuo giardino da pulire e buttare fuori la spazzatura a quello del vicino. Il mondo è fatto di famiglie, dobbiamo ricordarcelo. I figli non sono solo quei due o uno che hai fatto, sono tutti gli altri. Sono le 20.000 persone che muoiono perché sono persone che magari hanno 6 mesi, hanno 1 anno, e muoiono tutti i giorni, tutti i sacri, santi giorni. Allora non dire parolacce è giusto, perché per il rispetto, ma ricordarsi anche che 20.000 persone che muoiono tutti i giorni è una bestemmia davanti a qualsiasi Dio, è anche altrettanto sacrosanto. Quindi per quelli che ogni tanto se ne ricordano, vai Anto. Quando ero bambino. Volevo volare sopra un cielo in tempesta quando ero bambino, e sai che avrei voluto arrivare dove il vento si ferma per rubare il respiro, e sai che avrei voluto capire se qualcosa è rimasto in tutto quello che ho detto. Sai, ma questa notte non basta, ma che cambio discorso a te che resti te stesso. E sai che avrei voluto portarti dove andò allora, puoi mangiare un bambino. E sai che avrei voluto guardarti mentre il cielo ti cade, resti un po' più vicino. E sai che avrei voluto una vita di parole già fatte per non farmi più male. Sai, ma questa notte non basta, ci sono troppe risposte che non riesci a spiegare. E no, stanotte vedrai, non piangerò. No, sarai dovunque andrò, e porterò i miei occhi a chi non riesce più a guardare, e brucerò i miei sogni perché lei possa trovare. Ci vorrebbe una luce in questa notte di pace per volerti guardare, o per riuscire almeno a capire se davvero c'è pace in ogni figlio che muore. Sai che ci vorrebbe una voce, la tua voce sopra ogni croce, ma questa notte è troppo veloce per poterla sentire senza farsi del male. E no, stanotte lo sai, non piangerò. No, stanotte sarai dovunque andrò, e porterò i miei occhi dove nessuno può guardare, e brucerò i miei sogni perché lei possa trovare un posto dove andare, un posto per capire, un posto per tornare, poi ricominciare. Posto dove andare, un posto per capire, un posto per tornare, poi un posto dove andare, un posto per capire, un posto per tornare, poi ricominciare. Posto dove andare, un posto per capire, un posto per tornare, poi ricominciare. Gran pezzo questo, emozionante, molto emozionante. Complimenti sinceri, Maurizio. No, ti ho visto anche, molto, molto dentro la canzone. No, ragazzi, allora mi piace dire le robe come stanno. Probabilmente, no, forse magari qualcuno pensa, non tolgo niente al mio grandissimo amico Matteo, che è stata la prima volta che l'ho fatto. Ma io, mentre facevo quando Anto faceva l'assolo e mentre faceva l'ultima nota. Come mai Anto si è levato via la chitarra? Adesso l'ultima nota me la perché rifai. Gli piace essere me la rifai vivo. Un'altra volta, me la rifai un'altra volta, l'ultima nota, che era molto molto significativa. Hai sentito quella nota? Certo, voglio risentirla adesso. Proprio quella, sì, vai. Va benissimo quella. A proposito di grunge, adesso posso dire grunge così? No, di grunge. No, arriva. Di grunge perché ti suona così. Arriva. Violenza psicologica. arriva. È bello, bellissimo questo pezzo. Bellissimo è questo finale con la chitarra di Antonio. Dava un certo peso al pezzo. Quando c'è stato. Quando ero bambino, parla di un periodo in cui fortunatamente. Cioè, perché poi le canzoni, quello che diceva. Il vecchio, visto che dice che tu sei vecchio. Sì, sono leggermente più vecchio di lui. Sì. Guarda, non si può vedere. Un po'. No, siete tutti e due giovincelli, però si sente anche nella. Di la verità. L'età non esiste. La musica non esiste. L'età non esiste. No. No, io sto parlando con dei ragazzi. Esatto, sono d'accordo con te. Noi non abbiamo differenze di età. No. Io sono un pochino più grande, per me sono come se fossero i miei coetanei, come tu sei il mio coetaneo. Certo, dico una cosa, quando ho fatto quella canzone qua, loro. Probabilmente erano molto più piccoli, non era così bella sicuramente, era così, ma non era così bella perché contano anche queste cose qua. Certo. Ed era un veramente un periodo in cui vorrei, una stanza in cui non vorrei più entrare. So che c'è, perché bisogna sapere che esistono tante stanze nella vita, ma io le vedo così, io la mia vita la vedo. Cerco di immaginarmi i posti come se fosse un albergo, l'ho chiusa, c'ho la chiave, potrei entrare, preferisco non entrarci. Però vi dico una cosa, una volta uno mi ha chiesto, ma te quando ero bambino parla della violenza dei bambini? Io ho detto no, non parla di quello, quando ero bambino parla di un determinato viaggio, di un determinato stato d'animo, di un determinato modo di vivere e che io ho vissuto senza stare a entrare nei particolari che sono privati. Però gli ho detto, ti giro la domanda, se te devi andare all'inferno con qualcuno, preferisci andarci con uno che ha letto e studiato la Divina Commedia o con qualcuno che c'è stato? Okay. Questo è la musica, questo è il rock. E a proposito di questo, tu hai detto che questo è un pezzo che avevi scritto un po' di tempo fa. Come è stato modificato e messo in questo disco nuovo? Come è stato rafforzato dalla chitarra di Antonio e dal giro di Alessandro? Io penso, vabbè, forse te lo può dire. A me interessa quello, sì. Tu vuoi sapere il termine tecnico? Io voglio sapere come mai è stato arrangiato in questa maniera. Questo di Antonio, posso dirlo io. Vai, Alessandro. Perché prima la canzone era molto differente. Era più frivola. Maurizio l'aveva scritto in una certa maniera. Sì, poi noi eravamo molto inesperti ai tempi. Antonio ci ha dato molto una mano nel crescere musicalmente. E lui un giorno ha presentato quell'arpeggio, non so se l'avete notato all'inizio, sì, sì, nel esatto. live, scusate, nell'album purtroppo non c'è. Non c'è, esatto. Per motivi tecnici. Perché pezzi di 7 minuti non si possono ancora più esatto. fare. Beh, esatto. si possono fare ma ancora. Non, non si possono no, più fare, se ti chiami Maurizio Birra non si possono fare. Però dal vivo li puoi fare in ogni caso. Antonio l'ha presentato e è uscito questa melodia, questa armonia. Adesso probabilmente i professori di conservatorio mi insulteranno per è uscita le mie lacune. Allora, Ale... Dico, è uscita questa cosa qua, ecco, questa, punto, ecco, che è bella, a noi piace e abbiamo deciso di farla. E funziona così. E funziona, benissimo, punto. È chiaro, ma è giusto che sia così. Il pezzo era scritto da Maurizio, poi Maurizio l'ha portato agli altri due componenti della band, chiaramente le cose sono sistemate in una certa maniera. Ma è giusto che sia così. Poi Antonio, che era il creatore di una certa sonorità, l'ha tirato fuori. Visto che noi non vorremmo annoiare la gente, visto che noi siamo qua per suonare, per spiegarvi come nascono le cose, vi facciamo sentire il nuovo singolo, quello che forse se Dio vuole lancerà il nuovo album. Lancerà sicuramente il nuovo album, certo. che faremo a novembre, sì. E sarà un album totalmente nuovo, in uno studio nuovo, con delle sonorità totalmente nuove. Ma vi facciamo sentire, soltanto per farvi sentire un pochettino, quello che può essere l'anteprima, il singolo, che già qualcuno ha avuto che voi avete già fatto nei nostri sentire. Concerti, perché Mauri dice... Ma te fai sentire le canzoni alla gente? E se non fai sentire le canzoni alla gente, cosa fai? No, devi farle sentire. Perché una volta si faceva così, l'album nuovo non era un inedito. No, si provava. Scusate, la buon vecchia Anima Salva, che è su in cielo, con il buon vecchio De André di Dalla, sì. È lì insieme a Gesù Cristo, è lì insomma. Perché io sono convinto che chi ha regalato tanti sogni non può far altro che essere su là. Sì, certo. Quando ha fatto... 3 marzo, sì. quando ha fatto marzo, cioè ragazzi, voi credete che non l'avesse mai sentita nessuno? Era stata portata in giro nei festival, sì. Ma funziona così, ma dovrebbe essere sempre così. Gli inediti non sono, cioè l'inedito è inedito perché non è stampato, ma la gente gliela devi far sentire perché la canzone è per la gente. Scusa, a Sanremo non può farlo, però. A Sanremo non si può fare. Ma noi non siamo nessuno, quindi possiamo farlo. Certo, non è che non siete nessuno. E allora, per tutti quelli che pensano che tanto meno Sanremo, ma neanche magari le major, sono proprio così una cosa in cui passa veramente la musica italiana, anche quella becera che ascolta la casalinga di Voghera come ragazzino di 14 anni, perché noi abbiamo questo target, vi dico solo una roba, domani parto, perché puoi scappare da tutti, tranne che da te stesso. Allora Maurizio, prima che fai la canzone che adesso ci presenterai in anteprima, chi è questo personaggio che si ogni tanto ci sono anch'io. Allora dicevo, prima di fare questa canzone che adesso andremo ad ascoltare, che tra l'altro ti ringraziamo di darci questa esclusiva qui a Blu Radio Veneto, ti porto i saluti di una cara amica che fa parte di un duo che verrà qui a trovarci il 17 di agosto, si chiama Serena Finati, fa parte assieme ad Andrea Venier del duo Deja, che tra l'altro sono molto ma molto acustici, perché per te che ami la chitarra c'è il fingerstyle, lui è un grande grandissimo artista e lei ha una voce bellissima, ti sta ascoltando, ti porta i suoi più cari saluti, ti fa i complimenti e continuiamo a sentire la tua ricambio... è da Fiumicello, che non è la frazione del paese qui in provincia di Padova, ma è vicino a Trieste. Ringrazio come sono uso io la sera, l'ascolterò sicuramente quando sarà qua con voi, e anche per lei e per tutte le persone, specialmente a una mia amica carissima che veramente ci vuole un bene dell'anima e ci serve sempre, come la Patti in Sardegna. Questa per lei, domani parto. Ciao Serena. Forse mi sbaglio, ma sono sveglio, c'è qualcosa che non va. certo che dura stare in video la mia età, certo che dura fare i conti all'anima. Insieme! Domani parto, domani esco, non so se sono pronto. Domani parto, domani esco, chissà. Ma che cosa ti hanno detto? Cosa hanno tolto da noi, ma sulla tua età? Dicono che basti un attimo, ma quell'istante dura da un'eternità. Certo che dura stare in piedi alla mia età, certo che dura, e comunque sono qua. Domani parto, domani esco, non so se sono pronto. Domani parto, domani esco, e vado fino in fondo. Domani parto, domani esco, domani mi confondo. Domani parto, domani esco, chissà. Se sono pronto, domani parto, domani esco, e vado fino in fondo. Domani parto, domani esco, domani mi confondo. Domani parto, domani esco, chissà. Domani parto, domani esco, domani sono pronto. Domani parto, domani esco, e pago tutto il conto. Domani parto, domani esco, e vado fino in fondo. Domani parto, domani esco, chissà. Da noi non puoi scappare mai. Bellissima, me la rifai il finale per piacere, questo stop e ripartenza. Ti piacciono tutti i finali? Eh sì, mi piacciono i finali, stop e ripartenza, dai, vai. Proprio quella, proprio quella. Sì. Vai. Sì. Sì, fai il ritornello, fai il ritornello. Non so se sono pronto. Domani parto, domani esco, e vado fino in fondo. Domani parto, domani esco, e pago tutto il conto. Domani parto, domani esco, chissà. Conclude degnamente. Ottima, ottima. È proprio un singolo accattivante come non mai, che propone, nel senso che ti fa muovere decisamente. Vedrai il video, te lo girerò. Decisamente ti ringraziando fa muovere. Un altro ringraziando un altro carissimo nostro amico che ci mette sempre il cuore dandoci una mano, a Tamma Caro, il buon vecchio Tamma. Ciao Tamma, grande. Grande Tamma. Vedrai il video, ti spiega. E vorrei ringraziare anche Lorenza Tatulli, che è stata la protagonista del video. Posso chiederti una cosa, Maurizio? L'idea di fare un pezzo così, in questo genere, di questa velocità rispetto ai pezzi che abbiamo sentito prima, com'è nata l'idea del singolo? Allora, non è un singolo, è un pezzo molto accattivante che prende immediatamente. Vedi, allora tu adesso mi hai fatto questa domanda perché la colpa di Ale. Come mai? Perché Alessandro è stato. Perché ti spiego, quando noi andiamo a fare in radio. Ma allora, ragazzi, sto parlando con Mauri. Scusa, padrone. Non è Tommaso. Il capo. Dimmi. Siccome è il Mauri, allora mi ha chiesto questa cosa qua, io gli spiego che è la colpa di Ale. Perché praticamente cosa succede? Lui quando deve portare la versione mini della batteria dice: no, io la voglio fare bene. Non si può fare, domani parto. Guarda, adesso perché si è trovato bene, perché ha trovato il batteria, perché ha trovato delle persone. Solo per voi. Se no, domani parto e gli dicevi: falla. Diceva, perché lui dice giustamente: se c'ho una batteria mini, faccio le canzoni che facciamo di più, cantautorali così. Sì. Noi non facciamo soltanto quello che si sente, ma noi dal vivo siamo molto, picchiamo molto, certo, ancora certo. di più. Certo. Allora, esistono molte canzoni molto più. Diciamo che domani parto è nato veramente per essere un po' un momento musicale di sfogo anche per noi. Ne parlavamo quando stavamo venendo qua, perché sì. È bello il viaggio quando si fanno le date magari lontane. È bello perché lì vedi se c'è veramente il feeling in famiglia. Parli. Perché si parla. Dicono il problema è pulire la macchina il giorno dopo. Colpa di Maurizio. Vabbè, la macchina, secondo me, ragazzi, non buttate in giro la spazzatura, lasciatela tutta nella macchina di Anto. Che non c'è problema. Perché quella di Maurizio è già piena. Quindi. La mia è già piena. Allora si parlava, si diceva, ci sono dei momenti in cui noi facciamo dei pezzi, come dici te, come quando ero bambino così. Poi ci sono dei momenti in cui hai voglia veramente, tu lo senti anche tu da ascoltatore, in cui hai voglia di ascoltare, non c'è ragione te quando ero bambino, ma in cui hai voglia di sentire un pezzo alla domani parto. Sì. Proprio per dire, sono... Devo una birra a Mauri. Cavoli, scusate ragazzi, è stato il trasporto. Cavoli, sono ancora vivo, capito? Ho capito. È presente. Allora, lo senti anche te, è vero o no? Quello dietro in regia, lo sente o no questa cosa qua? C'è il momento che tu vuoi sentire un pezzo, diciamo, veramente da quando ero bambino, e il momento in cui hai voglia veramente di picchiare giù alla CDC, capito? Una roba così. Cioè, ti viene spontaneo, dicevo. Cioè, è un fatto fisiologico. Vorrei fare un altro paragone, ma qua non si può fare. È come quando vuoi bene una persona. Ci sono i momenti in cui vuoi carezzarla, ci sono i momenti in cui vuoi qualcos'altro da lei. Ecco, uguale. Perché la musica è uguale alla vita. È la vita. Quella cosa che tu dicevi all'inizio. Cioè, non è che noi... E a me piace quando si sente... Io spero veramente di non fare mai. Una volta eravamo lì a fare l'aperitivo prima di venire qua, mentre aspettavamo di entrare. E mi chiede Anto, ma se un giorno ci va bene e facciamo questo di lavoro, come facciamo? Cosa facciamo tutto il giorno? Io ho detto, lavoreremo lo stesso, perché la vita, cioè, non è emozionale. Se fai il musicista professionista è un lavoro mica no. da poco. Ti assicuro che io ho conosciuto dei buoni e dei grandi dal punto di vista dell'ambito italiano, sì. Musicisti. Non auguro a nessuno di fare il musicista professionista di lavoro. È un lavoro durissimo. È un lavoro durissimo, certo. Che ti toglie quel sogno, quella voglia di raccontare la vita. Quella cosa che ti dicevi, la musica non è il fine, è il mezzo per raccontare. La musica non è la vita. E purtroppo, lavorando come... Se parliamo come turnista, come musicista turnista, allora il discorso è duro fino a un certo punto, ma come musicista professionista non hai tempi morti, devi lavorare continuamente. Forse l'ho detto perché non so, non avendolo mai provato, io stai lavorando e suonando. Ma se fai solo lavoro, cioè non lo so. Molti si crede che sia semplice fare il musicista, non è per niente semplice. No, ma non è per niente semplice. È difficile ed è gravoso ed è pesante. Però Mauri, la paura, vedi, il nocciolo è di inaridirsi. Ah, ho capito, sì, è vero. Cioè, hai capito? Sì, è vero. Perché se tu sei chiuso nella tua... Perché si fa sempre... Adesso facciamo... Un discorso da amanti della musica. Perché diciamo sempre, anche quello dietro che sta digitando, perché diciamo sempre: ah, ma cavoli, ma quello lì, i primi due dischi erano fantastici. Dopo, vabbè. Perché i primi dischi sono sempre i migliori? Perché? Te lo sei mai domandato? Perché dopo avrebbero, cioè, hanno studiato di più, hanno potenzialità tecniche. Tutti i gruppi, non facciamo nomi, tutti, U2, ai famosi CDC, c'è di tutto, fino a passare, guarda, forse i Queen non hanno fatto, non hanno avuto questo, gli unici che non hanno avuto questa ala discendente. Dopo c'è di tutto, si può raccontare di tutto, ma se non vivi con la gente, se non capi, se non vivi più la vita vera, quella di tutti i giorni, diventi dentro una rock star, dentro, sai, dentro una bolla, se non sai cosa vuol dire prendere la bolletta e dover andare in posta a pagarla, lo so. Avere magari soldi per pagarla, sono, e qui qualcuno ha detto, allora perché quando diventa una rock star la gente non soffre più, non c'è niente, cioè non ha più sofferenza, quindi va avanti come fosse una cosa normale, non ha più sofferenza, perché il rock è sofferenza, c'è poco da fare. Non è che ragazzi siamo qua a tagliarci, no, sofferenza nel senso di fatica. Io non sono una persona speciale, io sono uno che vede le robe e le vive come gli altri. Se tu mi racconti che hai fatto fatica a pagare una bolletta dell'elettricità, io so cosa vuol dire. Certo, sono d'accordo. Ecco, se vivo nella bambagia, magari da 20 anni, da 30 anni, mi spiace, posso essere sensibile finché vuoi, ma non posso capire che cos'è. Certo. Parliamo allora di questo disco di cui abbiamo parlato. Andiamo avanti con la musica, facciamo promozione. Infatti, io volevo dirti, Maurizio, se perché qua vola il tempo. Sono già le 22:10 minuti quasi. Vai andare i pezzi. Ragazzi, allora, scusate, sinceramente, scrivete se vi stiamo rompendo i maroni. Io ti porto i saluti di tre care amiche. Insomma, una è Miria, ci sta ascoltando dalla provincia di Mantova. Poi c'è Isabella e Loredana, che sono qua dalla provincia di Padova. E io li ringrazio e spero che magari. Casalinghe di Voghera, ma sono loro. Spero che magari ci sia la possibilità anche di vederci dal vivo e che possano sentirci dal vivo. Perché. Senti, questo titolo, Non disturbiamo la televisione, perché non ce lo spieghi dopo, prima ascoltiamo la canzone. Bravo, prima la canzone, allora, prima la canzone, sentiamo piacere. La canzone e poi vediamo, così ti prepari la risposta, vero? Ce l'ho già. Ok. C'hai ragione te, che siamo sempre ad un incrocio con tutti i nostri sé, nascosti in mezzo a troppo buio. E c'hai ragione te, per ogni volta che hai dovuto solo dirti che domani è ancora un altro giorno, è per il tempo che ti è andato, è per quello che hai vissuto, per le notti in cui hai lottato senza mai chiedere aiuto. C'hai ragione te, che hai messo tutto su una croce e tutti i tuoi perché, dicendo adesso andate in pace. C'hai ragione te, per ogni volta che hai mentito dicendo che Dio c'è, anche se non l'hai mai incontrato, è per il tempo che ti è andato, è per quello che hai voluto, per le notti in cui hai sognato senza mai avere un invito, per le corse senza fiato fatte per sentirti vivo, per la pioggia e per le botte, per le lacrime di un vino. C'hai ragione te, se una risposta ancora qui non c'è, neanche per te. E c'hai ragione te, se stai cercando ancora come me, ti dico che c'hai ragione te, che siamo attimi di con tutti i nostri sé, che non arrivano a domani. E c'è ragione te, perché siamo sempre così soli senza capire che in certi posti si va insieme. Per il tempo che ti è andato, è per quello che hai bevuto, per le notti in cui hai sognato senza mai avere un invito, per le cose forse senza fiato, fatte per sentirti vivo, per la pioggia e per le botte, per le lacrime di un vino. C'è ragione persa, una risposta ancora qui non c'è, neanche per te. C'è ragione persa, stai cercando ancora come me. Ti dico che per il tempo che ti è andato e per quello che hai voluto, per le notti in cui lottato senza mai chiedere aiuto, per le corse senza fiato fatte per sentirti vivo, per la pioggia e per le botte, per le lacrime di un vino. C'hai ragione te. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Blu Radio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 22:13 minuti con Maurizio Pirovano qui, o Pirovano, Pirovano insomma, più giusto, qui a Blu Radio Veneto con Agostino Spolaore, con Maurizio Calzavara, il mio carissimo nonnetto. Stiamo cercando di regalarvi questo, questo rockettaro per eccellenza della musica italiana con questo disco che si chiama Non si intitola, meglio dire, Non disturbiamo la televisione. Vi ricordo i nostri numeri telefonici con in studio, è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli SMS vi ricordo il 346 23 20 033. Adesso però voglio la risposta da parte di Maurizio. Cosa, perché ha intitolato questo disco Non disturbiamo la televisione? Perché semplicemente era una considerazione che avevo fatto un po' di tempo fa. Quando, non so, ormai quando ti trovi, l'unico momento in cui ti trovi con la tua famiglia per parlare delle cose che succedono, poi alla fine a tavola, no? E molto spesso ti ritrovi lì magari col tuo babbo, con la tua mamma, mi piace dire la vecchia maniera, e magari con tuo fratello, sei lì a parlare e lì dici la verità, perché sono gli unici che ti parlano il sedere, no? Nel senso, nella vita, che ti vogliono bene. E di solito o lo faccio io, lo faccio zitto perché c'è il telegiornale, zitto perché c'è la televisione. A un certo punto, una sera, veramente ero davanti alla televisione, sono andato in camera mia, ho scritto, vabbè, stiamo tutti zitti. Ho iniziato a scrivere Non disturbiamo la televisione. Quindi è una cosa ironica, assolutamente ironica. È una constatazione. Una constatazione praticamente. Sì. Perché il rock disturba molto bene la televisione, fa bene a disturbare. Speriamo la televisione. Che continua a disturbare. Esattamente. Beh, deve, visto, deve. Visto cosa ci propongono ultimamente, insomma. Esattamente. Deve disturbare la televisione il rock. Cioè, il rock non è quella roba, il ragazzino. Cioè, un bellissimo articolo. Chi è che l'aveva fatto, Ale? Quell'articolo bellissimo che diceva che un Kurt Cobain non sarebbe mai nato. Billy Corgan. Billy Corgan diceva, è bellissimo ragazzi, è postato su Ale, è postato sul mio. Se andate, se avete due minuti, leggetelo. Un ragazzo come può essere Kurt Cobain non sarebbe mai nato oggi, non sarebbe mai stato conosciuto, perché oggi si vuole la visione del rock è quella del ragazzino perfetto con l'addominale, bello biondo, tutto lampanato, che in più fa il dannato, capito? È una questione edulcorata, non è vita, quella non è una roba reale, almeno per chi fa musica, per chi vive, lo capisce. Perché se non è l'addominale, sei rock. Ah, devi parlare vicino. Antonio, devi parlare vicino al microfono, se volevi. Sì, no, Allora, ti faccio una... Allora, scusate. Allora, il parto delle nuvole pesanti. Sì, un bel gruppo. Non è rock. È assolutamente rock. No, ragazzi, non è rock, perché non hanno l'addominale scolpito. Il capello fluente. È un bel, bel gruppo il parto. Io ci ho sognato tantissimo su quei ragazzi lì. Molto bravi, molto bravi. Decisamente molto, molto interessanti. Allora... Una cosa che abbiamo scritto per tutti quelli che ci ascoltano, perché la musica, le parole stanno a zero, ma la musica conta più di tutto, sono con te. Sono con te quando spegni la luce e cerchi nel buio un lampo di pace. Sono con te quando chiedi risposte e quello che trovi è solo un giorno qualunque. sono con te quando ti svegli al mattino e speri che fuori sia tornato sereno. Sono con te quando ti prendi le botte, perché crescere vuol dire vivere. E non esistono pareti, e non esistono distanze. A volte quello che credevi cambia e ricambia poi con gli anni, ma sono con te. Sono con te quando spegni una luce, e sono con te in questo giro di voce. Sono con te quando chiedi risposte, e quello che trovi è solo un giorno qualunque. E non esistono pareti, e non esistono distanze. A volte il bello dei segreti è che nessuno li conosce, ma sono con te. Se vivi, sono con te. Se credi, sono con te. Se chiedi, sono con te. Con te, con te, perché io sono te. Non esistono pareti, e non esistono distanze. A volte il bello dei segreti è che nessuno fa domande. E non esistono pareti, e non esistono distanze. A volte il bello dei segreti è che nessuno fa domande. Grintoso come sempre. Perché senza di voi noi non saremmo niente. Ti ringrazio. Molto, molta grinta. Soprattutto a me interessava il discorso dell'arrangiamento di questo pezzo. Poche note. Poche questo, note. Qua c'è dentro Antonio, tutto Antonio. Antonio lo colorava in una certa maniera, con un riff sempre più potente. La musica cominciava a pulsare finché c'è l'esplosione finale. Veramente ci volevamo prendere in giro mentre veniamo qua. Dicevo, Anto, se ti chiedono cosa ne pensi di Guitar Hero, gli dicevo, tu devi dire, per me un assolo se non dura 15 minuti non è un assolo. Ma non era un assolo, diceva giustamente a microfono spento, io e Antonio parlavamo, il discorso del chitarrista, lui è un chitarrista atipico perché diceva, faceva un ragionamento interessante, sei te che dai lo spunto con i pezzi, col testo, e lui lo colora grazie ad Alessandro che dà la funzione ritmica, ma è il testo che viene colorato da loro due. E certo, ma funziona così, non funzionerebbe, cioè quella canzone qua è l'emblema di quello che, come quelle che avete sentito ragazzi, funziona così, è inutile girare, cioè non so come funziona la com'è che è la Coca-Cola, la formula, però è quella, cioè io non so com'è, però funziona, ti piace, capito? Uguale. Non so se piace o no, noi funzioniamo così, non ci chiediamo adesso devo fare quello, funziona, vai, capito? Esattamente, parte sempre in... Non c'è regola tra di noi. Non c'è regola, non c'è regola. Però c'è, non ci sarà regola, però poi i diversi arrangiamenti vengono costruiti, vengono fatti. Ti posso dire una cosa? Dimmi. Non siamo stati veramente sempre così. Quando siamo arrivati, quando ci siamo incontrati, avevamo grandissima voglia di che la nostra vita non fosse poi quella dello stabilimento, quella soltanto... magari dell'università o quella soltanto di un lavoro preciso, tranquillo. Ci siamo messi in discussione perché non eravamo tutti così, non è che siamo dei santi, non è che siamo dei Gandhi in giro, cioè io avevo i miei concetti, Ale i suoi, certo. La sua età, Anto aveva la sua età, io avevo la mia, le mie convinzioni. Abbiamo capito che per per stare insieme bisogna fare tutti un passo indietro per mettere davanti la canzone, ecco. Perché la canzone per la gente, quella canzone qua dice sono con te, semplicemente ti dice quando non ce la fai a tirare avanti e vuoi soltanto un abbraccio, vuoi soltanto qualcuno che ti dica cazzo guarda che sei ancora vabbè dai quando ti hai capito va bene, scusate ragazzi, quando vuoi qualcuno che ti dica alla fine non voglio che cambi, voglio che rimani quello che sei e so che la vita non è dura, perché che la vita è dura come per te e per me, ecco. Voglio dire un'altra cosa, una caratteristica di questi pezzi ho notato, non so se sei d'accordo, è che praticamente crescono durante il percorso sempre dello stesso. Vogliamo parlare di dinamica? Proprio di dinamica. Ti piace la dinamica? Certo mi piace. La dinamica. A noi piace. La dinamica mi piace. Sulla dinamica. È molto interessante perché il discorso che il pezzo comincia, non dico comincia, perché questo può essere identificata come una ballad, potrebbe essere anche una ballad questa qua. È una ballad fino a un certo punto, poi cresce la ballad e diventa un pezzo rock. Poi ritorna a essere ballad. Maurizio, questo dipende da te. Perché, vabbè, io non so spiegarlo. Per me no, se un pezzo dell'andamento non tira, del pezzo. Se un pezzo non tira, io lo dico così. Se un pezzo non tira, sono il primo io a soffrirci. Il pezzo deve tirare, deve avere. Certo. Una volta gli avevano detto a Jim Morrison, era Jim Morrison. Perché era Jim Morrison? Perché tirava. Certo. Hai capito? Aveva un certo. Beh, ma nessuno ti può dare la certezza che il pezzo tira comunque. No, io ti assicuro, ti posso dire una roba. Cioè, lo sai dopo, magari è un pezzo che tu non te lo aspetti. Io me lo sento vivo, l'importante. Allora, quello, ragazzi, nessuno è Gesù Cristo, nessuno guarda oltre. Ce n'è stato uno. Però ti dico una cosa, se per te il pezzo è l'ofio, capito? Anche tu lo fai in una certa maniera, allora diceva Mauri. Allora non lo metti nel disco, però. Guarda, io non ho mai messo, al di là di tutto quello che uno può credere, noi abbiamo fatto due dischi, un EP e un LP, in 3 anni, neanche 2 anni e mezzo, e adesso facciamo il terzo, non ho mai messo un pezzo di quelli che si dice da riempimento. Ci mancherebbe. Ragazzi, ma il rispetto per la gente qual è? Ma c'è un motivo perché tu non hai messo nessun pezzo di riempimento? Perché questi pezzi prima li fai sentire alla gente. Certo, ma poi il rispetto per la gente dov'è? Ma poi sarei io il primo a rimanerci male. Però siccome, secondo me, stiamo parlando troppo, scusami Mauri, e mi piacerebbe suonare un po' di più per far sentire la gente. Ok, sentiamo un altro pezzo. C'è un pezzo che in realtà avevamo messo nel disco, invece mi piacerebbe, se la bontà di Ale e i mezzi tecnici che ha, piacerebbe fare un pezzo che è stato il primo per antonomasia, che ha spiegato, che ha dato veramente il via alla nostra. Al vostro percorso. Al nostro percorso, bravo. Perché tu sei più bravo di me con le parole. Scrivilo sui muri. Okay. Per tutti quelli. Si sta tagliando. No, però lo facciamo, ormai l'ho enunciato. Per tutti quelli che pensano che avere un mondo bello, grigio, pulito, senza troppe sbavature, senza niente, ma lui lo inventa al volo perché gli mancano dei pezzi. Ascolterete dal disco, ascoltate, se avete la sfortuna, la fortuna di sentirlo dal disco e sentirlo dal vivo, sicuramente apprezzerete questa versione, la fazzonata di Alessandro Sironi, in cui vi dice semplicemente che il mondo non è come l'avete pensato. Okay. E che i muri, anche se sono scritti, magari sui ragazzi con qualche disegno ci hanno scritto quello che volevano dirvi. Scrivilo sui muri. Blu Radio Veneto, è come non l'hai mai sentito. Storie fatte a pezzi da tutti i tuoi ricordi. Ci ho messo ciò che sono, e tu mi dici cresci. Discorsi che non dici, parole in cui non credi. Che importa andare avanti, se poi non resti in piedi. Stop, storie fatte a pezzi, da tutti i tuoi rimpianti. Ci ho pettinato il tempo, e tu mi dici tardi. Ma credimi mia cara, o cose che non vedi, e per restare vivo rigiocherei i miei anni. Ma lontano un uomo fa un gesto lento con la mano e va. Lontano cercando nel sogno una bugia o la libertà. E tu scrivilo sui muri, scredito. Stai fatto a pezzi, date zitto ai programmi, ti ho strappato gli occhi per darteli più grandi. Ma credimi mia cara, o cose che non vedi, per non stare vivo rigiocherei gli anni. Ma lontano un uomo fa un gesto lento con la mano e va. Lontano cercando nel sogno una bugia o la libertà. E tu scrivilo sui muri, scrivilo sui muri. E tu scrivilo sui muri, scrivilo sui muri. E va. E va. Duri, scrivilo sui muri e va. E tu scrivilo sui muri, scrivilo sui muri e va. E questo che cos'era, questo finale? Eh? È un finale di Antonio, vero Antonio? Tu hai sempre questi finali... Basta Antonio. Come ti sembra? Come ti sembra? Bello, mi è piaciuto. Posso dirti una cosa? È un complimento però, Sembri, vedendoti suonare e cantare, semi proprio, è un complimento. Un animale da palcoscenico. Ti ci vedi così? No, cioè, penso di... Io non so, penso di essere lì, mi sento bene, lì mi sento veramente io. È il tuo mondo, insomma, il palcoscenico. Sì, è il mio mondo, io vivo la settimana, quando un concerto non tira, quando non finisce come deve andare, per me dura, loro lo sanno come dura per loro, cioè perché noi viviamo per quella roba lì. Come vi presentate voi sul palcoscenico? Ci presentiamo nel modo più naturale possibile, partiamo con una canzone che fa così. Cosa? Subito. Ancora. Con una canzone che fa così. Suoniamo. Tutto dal vivo. 22:30. Con una canzone che vorrei dedicare a una persona che va lontano, lavora, e poi ritorna e ha sempre in mente quella roba lì. Non è quella. Non è quella che pensate voi, Non è quella che pensate voi, sporcaccioni. Semplicemente una domanda che almeno tutti una volta nella vita si sono fatti. Dove si va? Questa è per Salvatore. Salva. Per il babbo di Anto. E io la dedico anche per il babbo di Ale, per il Bebuzzo. Due persone che ci vogliono un bene nell'anima. Stiamo stravolgendo tutta la scaletta. Perché funziona così. Ok, dove si va? È sano, è auspicabile. E si spera che tutti almeno una volta nella vita si facciano una domanda. Dove si va? Ma ne è sempre un dubbio, prima di ogni risveglio, dov'è che va la luna? Quando non gira intorno, se batte per le strade di questa mia immaginazione, costruito un giorno, sì lo so, per farmi meno male. Ma è sempre un dubbio su cosa sia il peccato, se il senso di una colpa che oramai non ha significato, perché alla fine credi, ma sembra più la soluzione di chi ha capito tutto tranne poi dov'è che deve andare, dove si va, qual è la direzione, dov'è che stiamo andando, dove dobbiamo andare, e dimmi dove si va, qual è il significato che ha dato un senso a tutto e non è mai cambiato. Sempre un dubbio se ciò che c'è nel piatto l'abbiamo mai visto il sole che brucia dall'alba al suo tramonto, perché alla fine il trucco solo un semplice concetto, ciò che compri è poco, qualcun altro già pagato il prezzo, dove si va, qual è la direzione, dove che stiamo andando, dove dobbiamo andare, e dimmi dove si va, qual è il significato che ha dato un senso a tutto e non è mai cambiato, e dimmelo ti prego, se mai avuto almeno un dubbio poco prima di partire per quello che chiami viaggio, e dammi una risposta perché ancora sto aspettando, ed il dubbio che rimane è che nessuno stia cercando, dove si va, qual è la direzione, dove che stiamo andando, dove dobbiamo andare, dai dimmi dove si va, qual è il significato, domanda universale per ogni mia canzone. Posso dire una cosa nel senso positivo del termine? Ogni pezzo che Maurizio e la sua band fanno praticamente danno all'ascoltatore la sensazione del movimento continuo, secondo me. Ti devi muovere anche se non vuoi, nel senso positivo. Questa è una ballata, anche questa era una ballata, però la ballata poi prende piede, è veramente il pezzo rock al 100%. Non è così, Maurizio? Vieni avanti, amico. Sì, è così. Stanno dialogando adesso Alessandro e Antonio, si stanno spiegando il pezzo come era andato. Per me era andato bene sicuramente, Alessandro non eri molto d'accordo perché hai preso l'intonazione diversa, il pezzo diverso, no, era a posto. L'intonazione, allora noi stiamo cercando di fare seconde voci anche per un futuro progetto che stiamo preparando per il terzo album, okay. Ovvero di realizzare le seconde voci insieme io e Antonio e dare una mano a Maurizio. Sì. Perché noi sono 2 anni che andiamo in giro senza cori, esatto. Adesso si sta sbizzando. Beh, vi mettiamo il microfono davanti, non c'è problema. No, è un allenamento, dai. Mauri, le grazie. Cose vanno ma, fatte, no? Mauri, giusto? Dimmi. Noi vogliamo fare le cose fatte. Fatte bene. In una certa maniera, giustamente. E infatti si sono chiamati Serena Ferrara. Vorrei ringraziare la Sera perché nonché è una grandissima cantante blues e jazz, nonché quella povera disgraziata che gli tocca darmi, perché sai quando tu esci fuori a scrivere canzoni poi alla fine vai di stomaco e poi ti dicono no, tu sei bravo per 2 ore e tu capisci anche che 2 ore di concerto, 2 ore e mezza non li tieni in piedi se non hai un minimo di istruzione vocale. Certo. E la Sera, la Serena, io mi piace dire la Sera, è quella povera anima pia che mi dà lezioni. Ti dà lezioni, che ti dà una mano alla voce. No, diciamo che ogni tanto gli do soddisfazioni, ogni tanto mi dice che vado troppo di stomaco. Però purtroppo io sono così. Insomma, sei insopportabile, secondo me. Tutti ti devono... Questo è vero. Ma io... visto che il tempo stringe veramente. Beh, insomma, no, abbiamo ancora 20 minuti. Mi piacerebbe dare una spolverata al vecchio disco. Sono contento. Così parliamo di un paio di canzoni cui tengo. È una cosa, visto che... Sì, una cosa veloce. Tu hai giustamente detto, facciamo una spolverata al vecchio disco. Il vecchio disco, come poi lo portate dal vivo? Visto che il vecchio disco originariamente era un disco da solista, come l'avete trasformato dal vivo? Come l'hai portato dal vivo? La spiegazione più grossa. Dimmi. Te la spiego così. Questa qua è la canzone, a lui piace, vi faccio una canzone che si chiama Parlami ancora di te. Sì. Diciamo che è una canzone che facciamo poche volte, magari in certe occasioni speciali. È stata questa è un'occasione speciale. Questa è un'occasione speciale. Ok. È stata la prima volta in cui il mio babbo, che quando si andava in ferie, magari qualcuno può capire dall'altra parte, io sono, mi piace parlare come mangio, quando si andava in giro mi diceva, e più che canzoni degli alpini, e più che magari mazzolini di fiori, queste cose qua, dice, quando ha sentito quella canzone qua, non me la sarei mai aspettato, ho detto, ma quella canzone qua si chiama Parlami ancora di te, e dice, semplicemente dice una cosa, non contano le case, non contano i mutui, i sacrifici che avete fatto, quelli certo, lasciate qualcosa ai vostri figli. I vostri figli, la cosa che si ricorderanno più di voi sono gli attimi e il tempo che avete passato insieme e le parole che gli avete detto, magari quelle che poi pensate insignificanti. Se ne sbatte dei tuoi trucchi, delle ore straordinarie, delle corse senza fiato e dei giorni in cui respiri, se la prende coi tuoi sogni, quando cerchi di dormire, quando per stare in piedi vuoi soltanto camminare. E ti entra nelle ossa come tutto questo asfalto, perché quello che più conta sono le cose che non dici, e si prende la tua voce quando meno te lo aspetti, perché nonostante tutto è pur sempre la colonna di un film. Che cosa importa? Cos'è che è successo? E cosa importa? Cos'è che ti han fatto? E cosa importa? Cosa stai cercando? Continua a parlare. Tu parlami ancora, ancora, di quando torni dalla tua guerra e non ci sono più prigionieri, di quando chiudi il tuo mondo fuori, perché qui dentro non si sta in piedi, di quando vendi le tue parole per quattro attimi e due sospiri, di quando fatti due conti in giro, non c'è nessuno che ti dica beh, che cosa importa, cos'è che è successo? E cosa importa, cos'è che ti han fatto? E non importa cosa stai facendo, continua a parlare, tu parlami ancora, ancora, ancora. Cosa importa, cos'è che Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sì, sì, prova da Dio. Perché Alessandro mi ha detto, ma è chiusa? No, il microfono suona aperto, un musicista deve provare anche dal vivo. E questa è la radio, vera. Questa è proprio la vera radio, è così. Questa è la vera radio. La vera radio è così, provare col microfono aperto, perché no? La radio libera, no? Perché libera la mente. Allora abbiamo soddisfatto, spero che abbiamo soddisfatto la voglia di ballate di quello Agustino. Che sta di là. Eh no, non mi hai soddisfatto perché poi voglio far ascoltare la canzone che dà il titolo all'album. Ah vabbè, allora. Sì, quello. C'è una versione lunga, perché dobbiamo dire mai corta, sempre versione lunga. Qua a Blu Radio Veneto radio, non esistono radio edit. Sempre versione lunga, perché qui non si taglia nulla, assolutamente. Quel famoso discorso che dicevamo, non ci si può permettere più di fare canzoni in 6 minuti. Questo è vero, però... Però dal vivo invece io dico si può permettere. Certo, io dico sempre... Devi pagare il biglietto per andare a vedere... Plant e Peach, quando hanno scritto Stairway to Heaven, durava 9 minuti e 12, mica l'hanno tagliata? Durava 9 minuti e 12. Se Maurizio Pirovano ha deciso che un pezzo dura 7 minuti, deve durare 7 minuti. Se Alessandro e Antonio hanno deciso che dura 7 minuti, deve durare 7 minuti. Questa è la radio. Un applauso. Questa è la radio. La radio vera è questa qua. Questa è la radio vera. Suoniamo che cosa, ragazzi, adesso? Suoniamo una canzone che è stata scritta in una strada un po' lontana da qua, ma che va bene per qualsiasi strada della nostra buon vecchia provincia italiana. Bene. Strade diverse. Ok. Semplicemente quello che vedete fuori dalla finestra. C'è che ogni mattina c'è qualcosa da cercare, per qualcuno che si vende, qualcun altro sa comprare. E c'è chi corre sempre, non ha mai capito dove. Io so solo che mi serve una cartina da guardare. E c'è chi ha fatto i conti a tratte, anni avrà una casa, un mutuo a tasso agevolato ed una vita assicurata. E c'è chi c'ha una croce messa su un matrimoniale, poi però chiude bottega, poi c'è figlia va a buttare. E c'è che abbiamo strade diverse, ma credimi non ci hanno ancora spenti. Se adesso mi senti, io sarò il tuo riflesso. E c'è chi si è preso tutto e ti ha lasciato col suo niente, che a volerlo te l'han detto di potresti odiar per sempre. Ma con l'odio non si vive, con la rabbia non vai avanti. Se sei in piedi su un appiglio, chiudi gli occhi e ascolta il vento. Perché c'è chi ha fatto i conti, la casa non gli basta, ed ogni volta che ci pensa cerca una risposta e sbaglia. Perché c'è chi ha un buco dentro e non trova le parole per spiegare cosa ha perso e cosa veramente fa. E c'è che abbiamo strade diverse, ma credimi non ci hanno ancora spenti. Se adesso mi senti, io sarò il tuo. Do it. occhi, nei tuoi specchi, sui tuoi specchi. Ma se ti porteranno su strade senza via d'uscita e se daranno un prezzo anche alla tua vita, digli pure che oggi non sei in vendita e che domani, domani, domani si vedrà. Con la dimensione live si sente proprio da questo. Voi finite sempre con un finale da jam session e questo, sono molto contento di questo, sono molto soddisfatto, perché la jam session è proprio l'essenza del live, chiaramente. Jam session nel senso che tutti gli strumenti si sovrappongono, che tutti devono far sentire la propria voce e poi il finale si ricompatta tutto quanto. Se devi sentire, scusami, se devo sentire la copia del disco, allora mi metto in camera, è giusto, mia, mi è giusto, è giusto così, è giusto. Il live non deve essere la copia del disco. A proposito di camera tua, quando sei in camera tua che non vuoi ascoltare la tua musica, non stai incidendo, suonando, provando cose tue, cosa ascolti? Allora, cosa ti piace ascoltare? Ma a parte che a me piace molto ascoltare la radio. Io sono uno, non so se ti ricordi faccio una pubblicità di una vecchia radio dalle nostre parti. C'era un programma che si chiamava, che assomiglia molto a quello che fate voi, Radio Letto, che era Radio Lombardia, che faceva di notte, mandava dei pezzi con dei pazzi, tra virgolette, positivi, sognatori come voi, che dicevano: questo è per Mau, questa. Io mi mettevo nel letto, io sono nato così, ho cominciato a amare il rock, a amare comunque la musica che diceva qualcosa in questa maniera. Io amo ancora chi fa radio e amo moltissimo chi sa stare sul pezzo, e amo moltissimo per esempio il rock, ascolto Virgin, ascolto queste radio. Mi piace moltissimo le radio locali, chi ci mette il cuore, tipo questa radio qua, perché non lo dico per modo di dire, perché amo moltissimo stare sul territorio. Poi sono un amante sviscerare per il grunge, come hai detto te. Amo U2, continuo a amarli tantissimo. Cosa che ti piace degli U2? Ma degli U2 mi piace, allora, mi piace sempre il sogno. Ecco, questa cosa qua che va oltre il carattere tecnico. Gli U2 sono nati con un gruppo di ragazzi come siamo nati noi, che sostanzialmente forse è difficile esserlo, ma erano ancora più raffazzonati di noi all'inizio. Però hanno creduto e hanno continuato. Lo dicevo in macchina, guarda, non è una cosa. Noi ci si parlava e poi dicevo: guarda, ho appena ascoltato su una radio, ho appena ascoltato la storia degli U2. E quando parte una cosa del genere, tu cosa gli vuoi dire? Ti si apre il cuore, ti vengono quei brividini, e dici: questa è musica. E questo ti emoziona? Chiaramente sì. Ragazzi, il primo attacco. Voi dovevate essere qua. Tutti abbiamo socchiuso gli occhi e siamo andati per i nostri sogni. Certo. Quei 2-3 secondi dell'attacco, cioè, e poi siamo ripartiti. Ma sai che cosa, dimmi. Mauri? Tra 20 anni ci saranno ancora, quello che mi chiedo, ci sarà gente come noi che è ancora disposta a chiudere gli occhi? Io e sognare. Penso di sì. Io sono convinto. Certo. E loro possono, loro, perché loro in generale, chi invece non ha voglia o ha paura di questo, possono scordarselo. No. Questi sogni qua ci saranno sempre. Ci saranno sempre. Io gli U2 li ascolto perché anche se non magari non abbiamo molto feeling, io li amo, ma facciamo cose diverse. Rappresento quel sogno che abbiamo noi, capito? Poi amo Sting, amo certe cose, amo David Bowie. Scusa. David Bowie del primo periodo. Heroes. Cioè Heroes, cazzo, quando parte. Dai, pestami sull'inizio di Heroes, dai, fammi contento. Sì, vediamo, mettiamolo alla prova. Dici certo. Che ce l'ha. Sì, Heroes è un pezzo strepitoso. È un po' di tempo che David Bowie è un po' fuori dalle scene. Dicono che avesse un disco pronto, poi... Guarda. Dimmi, è giusto secondo te dopo tanti anni di essere fuori dalle scene? Molto giusto. Perché? No, è giustissimo. È doveroso, lo devi alla gente. C'era una persona che non esiste più, che io ho amato moltissimo, e si chiama Fabrizio De André. Sì. E diceva che chi fa musica, specialmente chi scrive canzoni, deve essere come un buon commerciante, un buon negoziario. Tu hai un negoziante di fiducia. Sì. Allora, il negoziante di fiducia non è quello che ti rifila lo scarto. Se c'è lì la pesca che dietro è bucata, ti dice: no, guarda, Mauri, quella non prenderla. Allora, di lui diceva che uno deve essere un buon negoziante. Se non ha niente da dire, non ha qualcosa da vendere di buono, è meglio che chiude e non vende. Lui se lo poteva permettere. Chi lavora e non vive di musica se lo può ancora permettere. Se io un giorno non c'ho più niente da dire, mi spiace. Smetti? No, smetterai mai. Spero di non aver. Spero che di aver sempre qualcosa da dire. Però, cioè, hai capito? Sì, ho capito, David Bowie è sempre stata una persona molto intelligente. Sono d'accordo con te. Può essere d'accordo con te quello che ha detto Fabrizio De André. Cioè, ragazzi, la gente che pesta fuori adesso, non voglio dire, un disco ogni anno e mezzo e tira fuori gli scarti che c'ha in scantinato, come qualcuno ultimamente, o che mi pesta fuori l'ennesima raccolta di. Ragazzi, toglie soltanto ossigeno a chi ha qualcosa di nuovo da dire. Un saluto a Marco Ferri, grazie. Un nostro caro amico, lo salutiamo, lui si è ricordato di dirlo. Mauri, togli ossigeno. Una volta usciva un disco di quelli grossi ogni 4 anni, ogni 5 anni, perché? Lo so, perché... Quando vai da una major, gli vai a dire: guarda, io c'ho questa roba qua. No, guarda, noi facciamo soltanto roba catalogo. O se no, se esce da un reality, o se esce da un tale... Sì. Cioè, ragazzi, la musica non passa dalla televisione. Lo so. Passa magari anche dalla televisione, ma non passa. Antonio Marinelli in televisione non mi risulta, a parte con me in certe scappatelle che erano degne come questa serata qua, non mi risulta che Alessandro Sironi e Antonio Marinelli abbiano fatto delle comparse a Amici. X-Factor. Ma dove? Film Luci Rosse. No, cioè, se vuoi, magari li facciamo passare anche da lì, ma la musica non passa da lì. No, penso che siamo d'accordo. Sì, questo sono pienamente d'accordo. E non solamente quel programma lì, allora, ma anche altri programmi. Sì. Io vedo che mancano 4 minuti. Aspetta, dove c'è la fretta? Stai tranquillo. Abbi fede. Allora, abbiamo capito che ti piace David Bowie, ti piacciono gli U2 e poi dicevi De André. Questi sono i tuoi tre preferiti. Ma poi qua qualcuno si dimentica una cosa che mi piace. Questa è una cosa che abbiamo fatto una sera con un nostro carissimo amico comune, che è un sognatore come noi, lo saluto, Alex Rusconi. Ciao Alex. Si parlava... salutiamo anche di Radio Vera. Sì, giusto? Di Radio Vera, sì. Di Brescia. Ciao si Alex. Si parlava, ma ragazzi, ma chi ha portato il rock cantautorale in Italia? È stato il buon vecchio ancora De André, che si è preso la briga, già famoso, di prendere una grandissima band... come era la PFM, e metterle insieme e reinventarsi i pezzi che aveva fatto. Chi glielo faceva fare? Perché lui diceva che il pezzo doveva avere tiro, lo sentiva, capito? Quella cosa che dicevamo prima. Cavoli, ma ragazzi, ma se qualcuno non ha in casa sua il disco, se ha la fortuna, non dico il culo, di avere il CD. Sono due dischi, sono il doppio. Il vinile, perché il vinile è un'altra cosa. Te lo culli, cambi la puntina. Mauri, quando cambi la puntina del vinile, quando si faceva il trasporto, prendevi il vinile nuovo. Non so se ti è mai capitato questa cosa. I giovani non lo sanno, ma questa è una parentesi che spreco volentieri. Spero che me la faccio in 10 secondi. Prendevi la cassettina, prendevi il disco nuovo, lo mettevi su, puntina nuova, che sprecavi soltanto in quelle circostanze lì, la mettevi e ti scaricavi subito, così possono capire, copiavi subito il vinile sulla cassetta. Sì. E poi la cassetta te la portavi in giro per non rovinare il disco. Questo era l'amore per la musica, ragazzi. Questo era l'amore per la musica. Non copiate la musica, comprate un disco, perché nel disco c'è dentro tutto quello che un artista vi vuole dire, se è sincero. C'è dentro i suoi sogni, c'è dentro i suoi sacrifici, c'è dentro una foto che vuole dire mille cose. Vedi David Bowie che faceva delle opere. Vedi il doppio di della PFM con De André. Volume 1 e volume 2. Sì. Comprate quel disco, non comprate Maurizio Cupirono. Anche se, anche se è in no? giro alla Feltrinelli, in catalogo alla Feltrinelli, abbiamo la fortuna di avere una comunque una distribuzione come la Edel che ci ha portato alla Feltrinelli, le messaggerie e alla Fnac in tutta quindi, Italia. Quindi se siete a Napoli potete comprare, qualcuno di Napoli ha comprato Maurizio Pirovano alla Fnac alla buona cifra di 16 euro, lo ringrazio, guarda mi sono messo in ginocchio per lui, però vi dico, comprate veramente, risparmiate e comprate i dischi, perché nei dischi, oltre a dare, non dico la solita roba, date ossigeno alla musica, nel disco c'è molto di più che scaricare. Mauri, cosa dici? No, sono perfettamente d'accordo con te, bisogna comprare la musica originale, questo è il discorso. E il prezzo deve essere onesto. E il prezzo deve essere onesto. Che non sempre è. Comunque, invece Antonio, tu cosa ascolti? Parla vicino al microfono. Per sono molto più moderni loro. No, a me piace un casino Jeff Buckley. Adesso sono un po' abbastanza il grande amante di Maurizio. Esatto, sono proprio innamorato del suo stile, di tutto quello che faceva. Poi vabbè, i soliti Alice in Chains, quel periodo lì che... Per il resto, Tool. Ah, i Tool, ti piacciono i Tool? Che me li ha passati lui praticamente. Ale. Duretti, sono duretti. Ho paura a dirlo. Stai insieme le malattie, siccome. Poi in realtà io non sono un grandissimo ascoltatore. Mi piace suonare. Più o meno ascolto quasi tutto. Sempre. Tutto, nel senso, tutti i tipi di musica. Cioè, passo. Mi piace qualsiasi cosa. Ho capito. Quelli che ho detto prima sono i miei preferiti in assoluto. Certo, certo. Anni di Franco, non so se conosci. Sì, certo. Come no, Anni di Franco. Sì. Franco tutta sì. Gente comunque produttiva che ha fatto magari mille idee nuove. Ha fatto un sacco di dischi Anni di Franco. Esatto. È un personaggio molto produttivo. Ha prodotto anche altri. Ed è indipendente. Ed è una pilota veramente per i diritti di tutto, a parte della musica. Una che ha avuto il coraggio di fermarsi, tra virgolette. Sì, d'accordo. È una indipendente. Adesso esce ancora, però. Sì, indipendente etichetta sua, molto coraggiosa, ha portato avanti un discorso decisamente atipico, questo sì. Per me sono da stimare queste persone. Indubbiamente. Alessandro, tocca a te adesso. Ho paura a dirlo. Dimmi. Il mio gruppo preferito sono i Tool. Ah. E non c'è ombra di dubbio. No, censuriamo, ragazzi, chiudiamo. Potete censurarlo. Sono arrivati in AS, chiudiamo, esatto. Ragazzi. Io ascolto i Tool. E poi? Secondo gruppo preferito. Allora, io ascolto molto il grunge. Grazie Antonio. Lui prima mi ha ringraziato per avergli fatto scoprire i Tool. Io lo ringrazio per avermi fatto scoprire, oltre al grunge dei Nirvana, che alla fine è il classico, ma il Seattle Sound in generale. E poi cosa dire, Deftones. Anche i Deftones ti piacciono? Sì, cose un po' che non c'entrano molto con quello che suoniamo qua, con Maurizio. Però la musica in generale, se è valida, l'ascolto. Certo, sì. Non c'è ombra di dubbio su questo. Anche perché Mauri è importante. Se tutti ascoltassimo la stessa musica, arrivassimo alla stessa cosa. Quindi... Grazie, Ago. Prego. Io non so cosa resta. Mi dispiacerebbe deludere il signore dall'altra parte. Mi piacerebbe chiudere dal vivo con il pezzo con cui chiudiamo tutti i nostri... Ma quello lo fai per ultimo. Ah, c'è ancora tempo. Ti ho mandato via. Ah, no. Allora, vuoi andare via? Quel signore freme per mettere dentro sì, la title track, quella famosa ballata. Vuoi che la facciamo ascoltare adesso? Spero che vi piaccia. È 5 minuti, ci siamo permessi di fare un pezzo da 5 minuti in questo momento. Ok, va bene. Che è la canzone che dà il titolo all'album. Non disturbiamo la televisione. E la ascoltiamo. Amica mia, non disturbiamo la televisione, dai vieni via, che anche stanotte c'è ancora da dare. Sorella mia, siamo una faccia, lo stesso colore, che vuoi che sia, anche il silenzio sa farsi ascoltare. So che ci sono regole che non puoi decidere, e so che ci sono logiche cui ti puoi nascondere. So che ci sono lacrime, ma non ho capito però chi passa, chi resta e chi no. Chi passa, chi resta e chi no. Chi passa, chi resta e chi no. Chi passa, chi resta e chi no. Viaggiare, se prima o poi basterà un mutuo per farci svegliare. Sorella mia, non c'è stazione per questo dolore, è colpa mia, ma quando ridi fa ancora del male. So che ci sono regole che non puoi decidere, e so che ci sono logiche in cui ti puoi nascondere. So che ci sono lacrime, ma non ho capito però chi passa, chi resta e chi no. Chi resta e chi no. Chi passa, chi resta e chi no. Chi passa, chi resta e chi no. Chi passa, chi resta e chi no. Chi passa, chi resta e chi no. Chi passa, chi resta e chi no. Fatti di plastica e di televisione, mediocri come il mondo che vogliono salvare. Quando ti dicono che devi essere forte, quando per stare in piedi non fai più domande, però chi passa, chi resta e chi no. Chi passa, chi resta e chi no. Chi passa, chi resta e chi no. Passa, chi resta e chi no. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Io ne approfitto, Maurizio, se tu sei d'accordo, di salutare una persona che appunto non ha acceso la televisione per ascoltare, per vedere meglio dire i programmi di questa sera, ma si è sintonizzata sulla nostra emittente, si chiama Maura, e così la salutiamo caramente, ti sta ascoltando. Dalla provincia di Venezia dice: c'è il mare davanti, una serata splendida. Guarda, mi vengono di puoi comunicare, no, anzi, ti sta ascoltando. Te lo comunico direttamente che mi hai fatto venire i brividini. Ecco, hai sentito una... me, quando mi vengono i Anto e Ale lo sanno. Ecco. Perché vuol dire che veramente lei quello che quello che facciamo ha un senso, capito? Certo, certo. Ma è bello sapere che uno non accende la televisione per ascoltare la radio, insomma. Allora, visto che hai detto questa roba qua, io non volevo fare questa canzone qua, che è una canzone molto personale. Spero che ci sia la possibilità. Si chiama Sangue nelle vene. Ha cambiato, siete stati sì, con me. Ha cambiato all'ultimo momento. La scaletta si cambia. Ha cambiato all'ultimo momento. Ha fatto bene. Noi, l'ultimo concerto che abbiamo fatto, mi sono dimenticato la scaletta. Ecco. È stato. Allora, c'era una tempesta da Madonna che di sabbia, non so come abbiamo fatto. Abbiamo fatto 2 ore e mezzo di concerto. Penso che sia stato uno dei concerti che almeno nel mio cuore è rimasto di più. E ci guardavamo negli occhi per fare un pezzo alla volta alla Buon Vecchio. Forse io credo che Bruce Springsteen abbia fatto più di una volta così. Vedere un uomo di 60 anni che ha una tale energia, se lo può fare lui, tu dici devo farlo anch'io. Nel senso, esatto. E diceva a proposito di questo, ho letto su recentemente su Mucchio Selvaggio, sì, c'era una lettera di un ascoltatore che lui è andato a vedere il Boss a Firenze. Ed è tornato, era di Roma questo ragazzo, è tornato in sleep, che era bagnato fradicio, e lui ha detto, la peggior cosa che io abbia mai visto sono stati i miei sleep, non chiaramente il concerto del Boss. Quindi vuol dire che il Boss, nonostante che abbia suonato con 3 ore e 40 o 4 ore sotto l'acqua, tutti quanti sono tutti rimasti là per 4 ore a vederlo. Quindi possiamo dire questo, il Boss ha più di 60 anni, però ha un'energia unica. Ma ragazzi, ma se uno... Io non voglio che ci sia confusione. Io l'unica cosa che vedo, che posso fare quando vedo, tipo, non so, l'aver visto Colin London, così, puoi metterti lì sul divano, ti metti lì in ginocchio, umilmente, e cerchi di capire qual è la magia, qual è il cuore grande come quello di un toro, che lo fa andare avanti 3 ore comunicando dalla prima all'ultima canzone. È il Boss, c'è poco da fare. Allora, visto che siamo in un posto in famiglia e visto che le cose, le persone non vanno prese in giro, questo qua è Sangue nelle vene, è semplicemente quello che sono. Ok, e poi torniamo. Nel bene o nel male. Tanta gente, nemico conquistato, nemico inesistente, cammino e non mi fermo, neanche a voltarmi indietro, può piovere all'inferno, per me è sempre lo stesso, ma vorrei sentire ancora una canzone, e non trovo più un jukebox. Alla fine lo so io quello che ho scelto, versami da bere, sangue nelle vene, e prenditi un bicchiere, vedrai che ti conviene, che ti conviene. Lo so che ci son cose che avrei dovuto dirti, ma a volte le parole si perdono per niente. Cammino e non mi fermo, io fede di serpente, può piovere all'inferno, per me già come sempre, ma se credi che ti basti una canzone per capire ciò che ho. Sì, se credi che ti basti una canzone, versami da bere, sangue nelle vene, e prenditi un bicchiere, quel che ti conviene, versami da bere, sangue nelle vene, e prendi quel bicchiere, vedrai che ti conviene, ti conviene. Porta tutti i sogni che hai buttato in un cassetto, porta qui tutti i rimpianti che hai nascosto in qualche posto, e portami le notti che hai buttato giù all'inferno, che tra vivere o morire il problema è sempre avere sangue nelle vene e prendersi un bicchiere di quel che ti conviene. Versami da bere sangue nelle vene e prendi quel bicchiere, vedrai che ti conviene, che ti conviene. Finale prettamente acustico, le due chitarre, quella elettrica e quella acustica, che si rincorrevano, e Alessandro dolcemente, non ha le spazzole, adesso ha le bacchette, terminava il pezzo. Noi vi lasciamo perché non vogliamo stufare, non vogliamo, abbiamo approfittato fin troppo di Blu Radio Veneto, una radio libera nel vero senso della parola. Libera veramente, libera veramente. E mi piace ancora di più. Perché libera la mente. Perché, esatto. Libera, perché la libera la mente. E a me pensare che ci sia soltanto una persona, ma penso molti di più stasera, che magari nel suo lettino davanti, guardandosi il terrazzo, guardando questa notte stellata, mentre ci ascoltava, per me è veramente è stato uno dei più grandi regali degli ultimi periodi. E allora, in faccia al mio stomaco e in faccia a tutti i Buscopan di oggi, vi salutiamo con una canzone che rappresenta... Sì, prima di salutare... Aspetta, tu hai fretta sempre. No, ma dico musicalmente. Ah, musicalmente. Ancora, musicalmente. No, è brutto tagliare. Ci lasciamo con la parola. Ma adesso vi salutiamo musicalmente con una canzone live che chiude quasi tutti i nostri dischi, i nostri concerti. Si chiama semplicemente Controvento. Spero che vi piaccia. E poi vediamo, ci vediamo dopo. Tanto ce la ripresenta di nuovo fra poco. Aspetta, dove vai? Cosa suoni? Aspetta. Cavoli! Salutiamo proprio con la canzone, Maurizio. Però sì, prima intanto però diciamo dove si può trovare il disco. Allora, adesso facciamo... Un po' torniamo, di... Torniamo seri, facciamo quello che una volta si diceva per cui si va in radio. Allora, ringrazio ancora una volta l'Atlantide per tutto quello che ha fatto per noi. Non solo per me, ma per noi. Soprattutto per avermi fatto incontrare una distribuzione, tu che sei del settore, voi che siete del settore sapete come la Idel, gente che ha distribuito non Maurizio Pirova ma molto di più, non Pirovano i suoi ma molto di più, e ci ha fatto arrivare in fondo, se uno vuole, in tutta Italia. Certo. Abbiamo detto a Feltrinelli, Fnac, dove non lo trovate sullo scaffale, addirittura c'è qualcuno che ha avuto l'ardore di averlo sullo scaffale, a Milano c'è gente che con soddisfazione mi ha fatto la fotografia, c'è sul non disturbiamo la televisione, sulla Feltrinelli, proprio lì bello alla M, sì, ecco. Sotto la M, certo. Oltre a essere lì, potete chiederlo a noi, potete venirci, la cosa migliore, quella che diceva Anto, venirci a trovare dal vivo. Lì veramente capite chi siamo, diventate della famiglia e magari sognate insieme a noi, che è la cosa più bella. Abbiamo invitato questi due elementi, queste due anime libere, spero che un giorno ci incontreremo veramente in un live. Certo, volentieri. Sarà un onore per noi. Ecco. Potete venirci a trovare, quella non è una pagina in cui, non so se vi capita in Facebook, per favore metti mi piace, ma non so chi sei. Ma no, mettilo che mi serve. Noi non siamo così. Se volete venirci a trovare, digitate Maurizio Pirovano, quello lì è un luogo dell'anima, dico io. Lì trovate le cose che veramente pensiamo, le cose che nel bene o nel male diciamo, e trovate moltissimi live per ascoltarci. I prossimi concerti che farai? Allora, i prossimi concerti sono il 7 a Milano, in Viale Sarpi, sinceramente non ti ricordo il nome. Il nome del locale, siccome è una data fresca fresca che è stata appena confermata, ancora non è. Comunque il 7 siamo a Milano. Il 14 siamo a una festa bellissima cui tutti i milanesi conoscono. Ma il 7 di cosa? 7 di settembre. Ah, di settembre. Sì, ormai 7 è oggi. Adesso andiamo in pausa, questi due ragazzi e io andiamo in pausa. Andiamo in pausa. Non andiamo in ferie, ma ci... Vi fermate un po'. Ci fermiamo perché abbiamo rotto abbastanza quest'anno, abbiamo fatto un bel po' di date. Il 7 di settembre siamo a Milano. Il 14 di settembre siamo a Brivio, in Brianza, in piena Brianza, in una delle feste più grosse della Brianza. Spero che veniate. Sarà una serata, una notte per Vanessa, che è una ragazza che noi aiutiamo da diversi anni. È una serata benefica molto grande, con un bellissimo palco, un benissimo audio, e poi c'è in più il fatto di dare una mano, perché la musica è sterile se poi non comporta il fatto della condivisione, no Mauri? Certo, ecco. Sono d'accordo. Il 14 veramente ci terrei, anche chi si deve fare un po' di chilometri venga e ci dia una mano per aiutare qualcuno che a 18 anni si è ritrovato, aveva i nostri sogni, si è ritrovato con me, con metà sogni tagliati per un incidente. Allora bisogna ricordarsi, non esiste quello che dicevamo in quando ero bambino, non esiste solo la tua famiglia, il mondo è fatto di famiglie, non esiste soltanto che se va bene te, vanno bene tutti, ecco. Certo. E il tuo sito, se qualcuno volesse contattarti? mauriziopirovano.com. Qualsiasi cosa avete, qualsiasi sfizio avete, digitate Maurizio Pirovano, trovate tutto. Siamo veramente spalmati da tutte le parti, anche se siamo piccoli siamo spalmati e ci siamo. Soprattutto venite a trovarci in Facebook, sulla nostra pagina, perché lì io ci sono. Se volete scrivere io rispondo sempre. Vorrei dire una cosa, ringrazio tutti i ragazzi. Ascolta, ma puoi togliere la batteria ad Antonio però, perché c'è la pila inserita e va sempre No, ma l'altro fa sempre sottofondo lui. Sì. È questa cosa che è nostra. Quella cosa che sentite non la manda. È una specie di presentazione. Sì. No? È una cosa che ringrazio e non allora, l'ho Antonio detto suona pure. Ringrazio tutti i ragazzi che scrivono, continuate a scrivere. Noi siamo piccoli. Come diceva Rachel, ma cresceremo. Noi siamo piccoli, però quelli che si prendono la briga di prendere una busta di lettere e scrivermi delle cose che non direbbero neanche probabilmente a loro madre o a loro padre. Qua c'è dentro tutto. Quando ci sono persone a cui tu dai una mano a stare in piedi, qua c'è dentro tutto. Io mi sono dimenticato di... Li ringrazio alla fine perché è quello che rimane di più. Grazie a tutti i ragazzi. Veramente. Per loro e per tutti voi, scusate, controvento. Allora, un grazie a Maurizio Pirovano che è venuto a trovarci questa sera, ma ringraziamo anche i suoi musicisti, cioè Antonio Marinelli. Ciao Antonio, grazie di essere venuto. Ciao. E Alessandro Sironi, ovviamente, alla batteria. Ciao, saluto Perale. Che è già sistemato, è già seduto. Allora, io prima di salutare vi ricordo due appuntamenti. Il primo sarà il 23 di questo mese, visto che stasera abbiamo parlato per quasi due ore e mezza di musica rock, dedicheremo una serata intera con degli specialisti, tra virgolette, del rock, come Maurizio, come Gianluca, che non mi ricordo più il cognome, Merlin di RCS, che verrà a trovarci assieme a un altro musicista qui. Dedicheremo appunto una serata non live, saremo comunque dal vivo, ma ascolteremo le canzoni della lunga lista di Gianluca, di Gianluca, la storia del rock, insomma. Questo è il 23 di agosto, dalle 21 alle 24 circa, insomma. Sì. Sempre qui a Blu Radio Vendo, quindi sarà un mercoledì speciale. E poi ancora invece io vi do un appuntamento, mi posso fare un po' di pubblicità? Sì, puoi farti un po' di pubblicità. Allora, giovedì prossimo non ci sarà nessun live. Fra due giorni praticamente. Fra due giorni, insomma, giovedì prossimo. Non ci sarà nessun live, ci sarò solamente io con la mia musica, con la musica che amo, le canzoni che insomma preferisco. Ci sarà anche qualche sorpresa, non vi dico niente perché ci sarà una grossissima sorpresa estera, ma insomma spero che accada, e quindi vi raccomando, restate lì, restate sintonizzati su Blu Radio Veneto dalle 21 alle 23. 3:30 più o meno, insomma sarete in mia compagnia. E poi invece giovedì della settimana prossima, il 16, ci sarà Anna Maria Iorio in Arte Sorgente, che presenterà il suo ultimo progetto qui a Blu Radio Veneto. Poi ci saranno altre serate, anche cominciare domani sera. Sì, domani sera c'è un gruppo cambogiano, The Cambodian Space Project. Un gruppo cambogiano sta facendo una tournée in Italia. Domani sera sarà l'ultimo giorno della tournée. Gli amici della band di Dolly Birds ci porteranno qua e sentiremo assieme la musica cambogiana. Una cosa che non avevo mai ascoltato: in cambogiano, bang bang. Sì. Ricordate, bang bang, fatta in cambogiano. È molto interessante, è fatta molto bene. Una cover in cambogiano. Ok, sentiamo domani ore 22 con Sergio. Bene, abbiamo detto tutto, quindi come vedete, come sentite, insomma, Blu Radio Veneto non va assolutamente in ferie, non c'è vacanza per noi, siamo qui, siamo in diretta tutte le sere o quasi, insomma. Combattiamo la crisi anche così. Certo. Stando vi vicino. Un saluto comunque a chi è in ferie, che si sta godendo queste benedette giornate di relax e che magari ci sta ascoltando, magari arriva al mare, perché siamo vicini. E poi io l'unica cosa che voglio dire, ringrazio veramente ragazzi il fatto che ci sia ancora qualcuno che ha il coraggio, perché si dice veramente il coraggio. Ogni tanto la gente storpia il naso quando si dice facciamo dal vivo in radio. Ma no, in radio dal vivo non si può. No, si può ancora. Siamo qua, si può ancora. No, se siamo Marco ancora Ferri, se ci sente. Ciao Marco, ciao. Ciao Marco. Grande Marco, ciao Marco. Allora, siccome rispetto per le band. Marco Ferri. Allora, scusate, i bambini adesso li metto a letto, prima però controvento per tutti voi. Ciao Maurizio, ciao Antonio, ciao Alessandro. Ciao ragazzi, grazie a voi. Buonanotte a tutti e grazie. Grazie buonanotte di essere venuti qui questa sera. Prego. Capita che avevi fatto i tuoi progetti e adesso credi siano sbagli. Chissà perché, tra mille santi e processioni, non c'è ma un Cristo cui spiegare che quando ti capita di perderti, vorresti solo che ogni più piccola tua lacrima portasse via con sé. E sentirsi sempre contro vento, come bruciare sempre troppo in fretta, come di colpo ritrovarsi stanchi questi giorni sempre uguali agli altri, come sentirsi sempre contro il vento, come bruciare sempre troppo in fretta, come di colpo ritrovarsi stanchi questi giorni sempre, di questi giorni sempre. E chissà perché, quando è finito le parole, c'è sempre chi si mette a urlare che ti sei accorta che per ogni cosa che hai comprato c'è qualcos'altro che hai venduto. Ma se ti capita di scrivermi, ricordati anche che per ogni lacrima che mastichi qualcosa cambia in te, in mente. Come sentirsi sempre contro il vento, come bruciare sempre troppo in fretta, come di colpo ritrovarsi stanchi questi giorni sempre uguali agli altri. Come sentirsi sempre contro il vento, come bruciare sempre troppo in fretta, come di colpo ritrovarsi stanchi questi giorni sempre, questi giorni sempre. alla mia destra, semplicemente Antonio Marinelli. Colui che il prete di Maresso ancora lo sta cercando. E quelli che sono della zona lo sanno. Ai tuoni, fulmini e saette, Sir Alessandro Sciro. Poi vedete, quella canzone qua è un dato di fatto. Se il mondo fosse un mondo perfetto, non saremmo qua. Noi avremmo altro da fare. Ma siccome questo qua non è il mondo che il mio babbo voleva per me, e siccome questo non è quello che voi volete per i vostri figli, ora cantate insieme a voi. E noi vi sentiamo dall'altra parte. Come sentirsi sempre contro vento, come bruciare sempre troppo in fretta, come di colpo ritrovarsi stanchi in questi giorni sempre uguali agli altri. Come sentirsi sempre contro vento, come bruciare sempre troppo in fretta, come di colpo ritrovarsi stanchi in questi giorni sempre uguali agli altri. Come sentirsi sempre contro vento, come bruciare sempre troppo in fretta, come di colpo ritrovarsi stanchi questi giorni sempre, questi giorni sempre. Notte. Un abbraccio, ragazzi.